i pidocchi. No, non l'ho mai avuti. Ne conosco uno però di pidocchio. Ci sei tu, Parenzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Touching nothing's all I ever do. Oh, I suffer, call you over. When you feel there's nothing left to do. Cruciani, dici che il diavolo non esiste. Io invece lo so che esiste. È un poltino, coi capelli tutti unti, i denti rovinati che con la fiatella, puzza come una capra perché non si lava mai. E soprattutto c'ha le corna. Ti ricorda qualcuno, Cruciani? Cruciani, immondo malvissuto, ti stai cacando sotto che puoi avere qualche malattia venerea mortale, vero? Beh, adesso, non esageriamo adesso, eh? No, non esageriamo con queste malattie venere. Non ho alcuna malattia. No, come, Parenzo? Che fai? Dubiti? Non ho capito. No, dico, è bello però avere il sostegno del pubblico. In genere le trasmissioni hanno bene, ma invece qui che ti venga la malattia, la gonorrea, la sifilide, sporco. È bello avere questo pubblico caldo, no? Che ti ama, che sì, ti di insulta. Solito, di solito insultano te. Generalmente, sì, no, ma è abbastanza equo, abbastanza, come beh, dire, no, ben equo diviso. No, per, non è ben diviso. No, tu non dici che sono a dire io poi. Il... Beh, tu sei molto insultato, ovviamente, da una parte del pubblico, insultato quella più attiva. Sì, perché la ragione aveva, perché sai, la ragione... Sì. La... Viene se il buon senso viene sempre insultato, sì. Vilipeso dai miserabili. Cioè tu dici io ho buon senso, sono una persona ragionevole. Penso alle volte dire delle cose anche proprio appunto perché banali, ma di buon senso. Diciamo, ecco, la verità, pensi di avere ragione quasi sempre. Quasi sempre. E io toglierei quasi. È riduttivo. Ragazzi, ci tocca parlare di come l'Italia non abbia alcuna speranza, perché a sentire, ad ascoltare qualche testimonianza su questa vicenda dei dipendenti pubblici che non timbrano il cartellino, che vengono sospesi... Oh, una storia meravigliosa, ho sentito di alcuni dipendenti pubblici che non timbrano il cartellino. Sì. È un esempio esemplare, se mi passate il termine, di come sabotare il paese. Meraviglioso. No. Sabotare. Togliete la il rivolta. Collegamento. Grazie. Allora, se uno si limita a queste cose, uno dice non ce la possiamo fare, cioè non ce la possiamo fare, è impossibile farcela, è la realtà. Se uno viene qua, no, da non so da dove, dalla Germania, dalla Francia, ma dalla Groenlandia, e conosce l'italiano, si mette davanti alla televisione, davanti ai talk show da Quinta Colonna in giù, e sente le testimonianze di coloro i quali non timbrano il cartellino, dei loro avvocati, eccetera, eccetera. Uno dice, ma dove sono capitato? Cioè, ma dove sono? In che mondo sono? Cioè, un investitore, cioè uno straniero, dice, sto portando qui del denaro, no? Arriva là, fammi sentire questo. Vediamo che c'è questa sera, fanno con il telecomando, là. Chi è questo signore con gli occhiali, con i capelli brizzolati? Del debbio. Ma lo sentiamo un po'. E poi a un certo punto arrivano i dipendenti pubblici italiani, in particolare, devo dire, del sud. In particolare del sud. Non perché l'assenteismo non ci sia al nord, perché ecco, magari... assume forme un po' più sofisticate, ecco, un po' più nascoste. Allora, senti questo tizio. Dice, andavo dal parrucchiere. Poi parlano anche, capito? Andavo dal parrucchiere durante il lavoro, perché molti... Senti, è curiosa questa cosa. Parrucchiere, io sono una donna, sono molto vanitosa, sempre attenta. E siccome nell'ufficio di Via Mercanti noi facciamo principalmente eventi, io tengo molto sempre alla cura della persona. Cioè, andavo dal parrucchiere, la voce è chiaramente camuffata. Muffata. andavo dal parrucchiere durante il lavoro perché ci sono molti eventi in ufficio. Dunque, durante il lavoro vado a farmi i capelli, perché in questo modo cioè, lo prendo come una parte del lavoro, capito? Magari c'è qualche giudice che le darà ragione a questa signora. Allora, l'avvocato di uno dei licenziati di un ospedale che si chiama Ruggi, un ospedale a Salerno. Allora, senti questa teoria molto particolare. Questo qua dice che un dipendente timbrava per 7-8 per agevolarli, perché siccome c'era la coda, per agevolarli, amico. Buono. Ma le spiegazioni io le trovo straordinarie, cioè le trovo un romanzo, cioè questo d'Italia è un romanzo straordinario alla fine, capito? Alle 8 sì. di mattina c'erano i corvi del traffico, del parcheggio, per cui un dipendente per favorire gli altri ad accelerare sì. le proprie attività sì. marcava il badge per gli altri 7-8 che lavoravano nello stesso... Che erano in un parcheggio? No. Per gli altri 7-8 infermieri che sì. si avviavano al reparto, e uno solo, anziché di perdere il tempo 7-8 persone, lo perdeva uno solo. Ah, ma è tutto meraviglioso, è straordinario. Cioè, invece di perdere tempo, capito, uno timbrava per gli altri perché in questo modo li agevolava. Ma veramente sono dei geni questi qua. Ma sì. sono dei geni assoluti, io li considero dei geni. E poi avranno ragione, in tribunale ci sarà sicuramente qualcuno che dice: beh, è vero però, è vero che in realtà questi qua volevano lavorare di più perché volevano entrare più rapidamente in ufficio, in questo caso in ospedale. Ma c'è un altro, c'è un sindacalista dell'ospedale, sempre Ruggi, il quale dice, senti. Allora, perché la maggior parte delle volte il cartellino non timbra. Ah, non funziona il cartellino. Come funziona il cartellino? È questo, la maggior parte delle volte. Cioè, la colpa è del cartellino che non timbra. No, la maggior parte delle volte. Questo ci si buono, può anche credere, Ci si può anche credere. Perché effettivamente... il mio badge, quindi là avete guardato, purtroppo funziona. Ma sempre. Tu non hai le ore contate. Cioè, non nessuno ti conteggia, è semplicemente una questione che poi sì. se ti porti, se ammazzi qualcuno là dentro, sanno che sei entrato. Ma questo è buono, Ragazzi, questa è la Zanzara, i numeri per entrare in contatto con noi 800 24 00 24, come sapete, centralino, fra poco via alla pancia, via alle viscere, come dice Parenzo, io dico semplicemente via alle telefonate delle persone normali, via alle telefonate degli ascoltatori di questa trasmissione, che per fortuna sono tanti. 393 71 71 701, invece non chiamate a questo numero perché mi avete rotto i coglioni degli squilli che sento ogni tanto, è il numero per i vostri messaggi semplicemente vocali WhatsApp. A proposito di assenteismo, c'è un altro caso che è quello, come sapete, di Pachino. Ecco, dove c'è il pomodoro, per il pomodoro. Sì, famosi per Pachino, per i pomodorini di Pachino. Sì. Signor Scirè è un dirigente che a un certo punto, in una trasmissione, credo sia La Gabbia, ha detto: un po' di assenteismo non fa male a nessuno. Non ho capito, però, prima che diceva che un po' di assenteismo ci vuole, mi diceva questo. Certo che ci vuole, certo, visto che non fa male a nessuno, tutti i comuni, tutte tanto le province. Tanto siete pagati solo dai contribuenti, quindi. Esatto, tutti. E guardi che non ci sarà un ufficio in tutto il mondo che non ci assenteismo. E quindi, siccome lo fanno gli altri, lo facciamo pure noi. Sì. Ora, questo è stato sospeso dal sindaco di... è stato sospeso domenica scorsa, addirittura in diretta TV. Durante la trasmissione di Giletti, dal sindaco di Pachino, signor Scirè, che sostiene che un po' di assenteismo non fa male a nessuno. Vabbè, ma questo, francamente, rispetto ad altre cose, mi sembra un peccato veniale. Cioè, una dichiarazione detta così, lui dice manipolata, tagliata. Lui voleva dire semplicemente che un po' di assenteismo, secondo me, è abbastanza naturale in tutti i comuni. Voleva dire questo. Non credo che fosse così coglione da dire quella frase. Ma risentiamola, perché l'inizio è sotto accusa. Risentiamo, Non ho capito, però, prima che diceva che un po' di assenteismo ci vuole, mi diceva questo. Certo che ci vuole, visto che non fa male a nessuno, tutti i comuni, tutte tanto le province. Tanto siete pagati solo dai contribuenti, quindi... Esatto, tutti. Bah, resta qualche dubbio, resta qualche dubbio. Allora, c'è la polemica tra Vladimir Luxuria e Giorgia Meloni. Non solo Vladimir Luxuria, la Meloni, dopo l'annuncio in televisione urbi et orbi della sua gravidanza durante il Family Day, è stata insultata, però il web è così, non c'è niente da fare. è stata anche sbeffeggiata da alcuni intellettuali ed esponenti della sinistra. Però io dico, finché si tratta di comici è abbastanza normale, perché se uno in televisione dice di essere incinta, poi ti puoi aspettare durante il Family Day, rivendicando di essere lì incinta e dunque dando un significato alla tua gravidanza. Però... beh, questo è importante però, questo è importante. Beh, dunque, ma certo, ma, no, ma ti puoi aspettare, pubblico, amico se però mio, ti, dai, puoi aspettare, ti puoi aspettare che ci siano dei comici o altre persone, sai, che un po' giochino su questa tua gravidanza. Il meloncino della Littizzetto, che ha detto... andare, no, da fare un figlio senza essere sposati, credo, è come un vegano che mangia una fiorentina, che è una stronzata oggettivamente. Allora, Luxuri ha detto auguri e figli trans, auguri e figli trans, sia Luxuria, sia Luxuria Meloni. Mi ha dato invece molto fastidio, lo devo dire, tanto per cambiare, Vladimir Luxuria, che ha fatto il secondo commento cretino in pochi mesi sul mio conto. Il primo l'ha fatto qualche mese fa dicendo: spero che alle famiglie, che i bambini delle famiglie eterosessuali non vengano abbandonati come ha fatto il padre con la Meloni. Sì. Voglio rispondere, approfitto, a Vladimir Luxuria, che, perché proprio perché so che cosa vuol dire crescere senza uno dei genitori, non stabilirei mai per legge che un bambino possa crescere senza uno dei genitori. Oggi ha detto Vladimir Luxuria auguri e figli trans, e voglio dire a Vladimir Luxuria che se anche mio figlio fosse gay, trans, bisex, trisex, quadrisex, lo amerei come qualunque madre ama suo figlio, ma continuerei a essere contraria alle adozioni da parte delle coppie. Ok. Vabbè, la polemica continua perché poi si sono introdotte altre persone, tipo uno dei leader di Casa Pound, che ha detto almeno lei può partorire, tu no, rivolto a Luxuria, eccetera, eccetera, mamma eccetera. Mia, però ti voglio far ascoltare una roba che non c'entra niente con questa polemica tra Meloni e Luxuria, che sarà nostra ospite più tardi nel corso di questa trasmissione lunghissima come al solito, no? Veramente dura sempre che lo stesso. Che ora si finisce stavolta? 20, uguale, identica. Ho detto lunghissima così perché è lunghissima, non perché ci siano novità. Ti voglio far ascoltare la coppia Brizzi Zanella. Lui è uno scrittore, credo anche regista. Brizzi, e lei è la sua compagna, molto molto vegana, e anche incinta, credo all'ottavo, nono mese. Allora, signor Brizzi racconta tutto in un libro. Domenica scorsa da Fazio ha raccontato praticamente quello che è un calvario, un vero e proprio calvario, cioè quello di stare con una, quella che io dico nazi vegana, ma non lo dico per... con un'estremista vegana, diciamo in questo caso estremista vegana. No, ma la cosa curiosa è questa, un solo flash, poi magari più tardi vi proponiamo altre cose. L'ho sorpresa a brucare erba. A brucare l'erba, dice miei, brucare l'erba. Vuoi raccontare, a proposito, Fausto, quella volta che hai visto Claudia brucare l'erba? Vabbè, questa è una cosa che non auguro a nessun marito. Insomma, onestamente. Noi abbiamo un piccolo orto in terrazza perché lei alcune cose le coltiva che devono essere sue, insomma, super bio. Una mattina mi sono svegliato, l'ho trovata china su un vaso dove c'era dell'erba e la strappava con i denti. Ma dai. Che se no sarebbe ossidata, insomma, comunque avrebbe perso le proprietà nutritive. Oh. Sì, è successo due volte. Ah, però, due volte. Però volevo provare, era un'erba particolare che si ossidava con i denti. No, un'erba particolare in televisione. Allora, una volta dice che ha chiamato il pronto soccorso perché c'è lei, ha chiamato il pronto soccorso perché c'era una lucertola ferita. Una lucertola ferita. Pronto soccorso. Vabbè ragazzi, è inutile che commento perché sennò divento cattivo su queste cose qua, Allora, non voglio essere troppo cattivo. Venga, scusa, Ale sei... dice... Beh, amico mio, pronto soccorso, a parte che lo paghiamo noi, dunque, ma se uno chiama il pronto soccorso lo paghiamo animale, noi. Animale, però. Mi potrei anche incazzare. Il pronto soccorso animale, non lo so, chiamato, comunque lo paghiamo noi. No, ma il pronto soccorso, adesso non so se è animale, non credo. Cioè, il pronto soccorso avrà chiamato, che ne so, l'ospedale, dice c'è una lucertola ferita. Sarebbe stato da registrare tutto, Fermi lì che torniamo con una grande storia che viene da Napoli, una storia di calcio, una storia incredibile. Traffico veicolare. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta La Zanzara. Let's go! Cruciani, come mi stai sui coglioni? Lo vedi, Parenzo, che non ce n'è solo per te? No, no, ma questo dico appunto, che in una trasmissione normale in genere la gente per la maggioranza chiama facendo i complimenti, qui chiamano e tirano l'acqua, insultano, offendono, questo è, ecco, se la radio fosse olfattiva, cioè si sentisse l'odore, sarebbe una tazza di merda. Parenzo, sei un conformista leccaculo. Cioè, tu capisci che non c'è tregua, no? Eccala. Cioè, non c'è tregua, non Eccala. C'è tregua, ne arriva subito una. Questo pubblico, vabbè, ragazzi, si divide, combatte. La storia che adesso vi faccio ascoltare è, non dico incredibile, perché ormai abbiamo visto di tutto noi, David, cioè non c'è niente, abbiamo visto qualsiasi cosa, no? Qualunque cosa, per cui non ci stupiamo più di nulla. Lei però, di niente, però, tu sai, anzi forse non lo sai perché non ti occupi di cose di pallone, che fra poche settimane ci sarà una partita molto importante per il campionato italiano di calcio, che è Juventus-Napoli, giocherà a Torino, tra la squadra che momentaneamente è prima in classifica, cioè il molto Napoli, calda, e la squadra che è seconda in classifica, che è la Juventus. Ai tifosi del Napoli, secondo me giustamente, ma è giusto anche il contrario, è stato proibito di andare a giocare, di andare a vedere la partita a Torino, per motivi di ordine pubblico, e così sia, giustissimo. Allora, su Facebook c'è una signora che si chiama Fabiana Pacello. È un nome sconosciuto, e più anche a me era totalmente sconosciuto. Questa signora si chiama Fabiana Pacello. Non è proprio una signora qualunque, nel senso che non è un tifoso così di passaggio, è una professoressa. Una professoressa in un istituto, l'Istituto Comprensivo De Curtis a Napoli, professore presso l'Istituto Tecnico di Portici, anche giornalista presso una giornalista freelance. E studia dottorato in germanistica presso l'Università Sapienza di Roma. Così sostiene, ma è un intellettuale, intellettuale. In Italia tutti fanno l'università e quasi tutti possono fare un dottorato. No, ho capito, però questa qui, però comunque, che è germanista. Allora, questa qua, io ti dico solo quello che ha scritto questa qua. Ti dico solo questo, quello che ha scritto. Aguzzate bene le orecchie, tenete lì le orecchie ben aperte, ben spalle. Allora, non vogliono farci andare allo Juventus Stadium perché si cacano sotto. E vabbè, fin qui si cagano. Certo, non è proprio da lord, da professoresse a scuola, né da dottorande, però va bene, chi non se è da germanista. No, non è un linguaggio alla Goethe, questo. E alla fanno Goethe. Bene, e fanno bene, aggiunge. Perché se ci girano le palle, qua succede la seconda edizione dell'AISEL. Hai capito, sì. Moderata e liberale la 39 signora. Morti all'AISEL, voglio ricordare. Vabbè, poi aggiunge la signora che si augura, come dire, che se ci girano le palle ammazziamo quelli della Juventus, in pratica, no? Ammazziamo i tifosi della Juve. Poi apre una parentesi, perché è anche corretta nel suo esporre questa signora, che si chiama, ricordo, Fabiana Pacello. Per la cronaca, io di quella gente non ho pena, cioè non ho pena di quelli ammazzati all'AISEL, uccisi all'AISEL, non ho pena, perché penso che se la siano andata a cercare. Beh, ragazzi, io non ce la faccio, e sentiamo cosa è uscito fuori da una nostra telefonata di pochi istanti fa. Pochi istanti fa abbiamo chiamato questa signora Pacello per capire, magari si è sbagliata, ci siamo sbagliati, no? Non è lei, le hanno che i famosi hacker che ogni tanto si inseriscono, perché ogni tanto uno per giustificarsi dice no, mi è entrato un hacker, qualcuno mi ha preso l'account. Sentiamo cosa è uscito fuori, la signora Pacello, una moderata tifosa del Napoli. Pronto? Sì, signora Pacello? Sì, io. Sì, buonasera, qui Milano. Mi dica. Salve, buonasera. Ho letto un post su Facebook. Sì, mi dica. Sul Juventus Stadium. E allora? Beh, mi sembra piuttosto grave. L'ho cancellato. Ma perché l'ha scritto? Non lo so, l'ho scritto e basta. Ma voi chiamate da Milano, ma di preciso chi siete? Radio 24, salve, buonasera. Non avete un cavolo da fare? Non vogliono farci andare allo Juventus Stadium perché si cagano sotto. Vabbè, fin qua ci siamo, no? Scusate, ma voi che ve ne importa di quello che ho scritto io? Non vi conosco, non vi voglio rispondere. No, ma scusi, scusi l'aggressività del collega. Intanto scusi. Buonasera, sono Parenzo. Sì, mi dica. Ecco, scusi l'aggressività. Che cazzo le è venuto in mente di scrivere? Scusi l'aggressività del collega. Ma a me cosa importa? Stiamo facendo roba confusa. Le ripasso il collega, però calmiamoci. Prego. Allora, lei ha evocato l'AISEL, ha capito? Cioè, se ci girano... Ma evocano sempre il Vesuvio, allora? Ma se ci girano le palle, facciamo un secondo AISEL. Lei fa la professoressa. Cioè non è una persona qualunque. Cioè fa anche la giornalista, la professoressa, ma le pare normale? E le pare normale quello che scrivono sul Vesuvio tutti i santi giorni? Sì, ma lasci perdere il Vesuvio. Se ci girano le palle, qua succede la seconda edizione dell'AISEL. E poi dice che lei addirittura dice che se la sono andata a cercare. Non si può dire più quello che si pensa. Lei pensa davvero che i tifosi della Juventus se la siano andata a cercare, l'AISEL? È probabile. Ma com'è probabile? Ma sono stati... Cioè, ci sono 30... oltre Manco si pente. Cioè, lei non si pente di questo post? Senta, ma lei cosa importa? Io non la conosco, non la voglio conoscere, mi lascia no, perdere cortesemente. Ma non scusi, si vergogna signora, un calmiamoci, po'. No, calmiamoci, perché qui mi pare che ci sia un clima un po' agitato. Scusi, signora, sì, scusi sì. Il collega. Senta, io ho da fare, a differenza vostra. No, scusi, scusi. Adesso non mi rompete le balle, non è che ho chiamato uno qualunque di cui è pieno il web di insulti eccetera, eh? Cioè è una persona che si presenta come, poi magari non lo è, una professoressa in una scuola da cui dovrebbe essere a mio parere cacciata domani mattina, e anche dottoranda alla Sapienza di Roma, così sostiene questa signora, la quale si augura morti allo stadio, e dice anche che quelli che sono andati tifosi della Juve che sono andati all'AISEL nel lontano 1985 se la sono andata a cercare, non prova alcuna pena, alcuna pena. Vabbè ragazzi, Massimiliano d'Ancona, dai Massimiliano. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi. Ascolta, io ce l'ho con i vegani, quelli integralisti, siamo come in due. Un amico mio. Siamo in due. Allora, io volevo fare una comunicazione per gli amici vegani. Una comunicazione, mi sembra di essere, esatto. Stai esagerando un po', una comunicazione urbi e torbi. No, una comunicazione per... proprio. Dimmi. Perché loro non sanno, a maggior parte, che il vino è fatto di cadaveri di piccoli animali. E quali sarebbero? Sono i ragni, forbicette, vespe, lucertole. E magari... E loro non lo sanno. Magari lo sanno. Adesso e non bevono il vino. No, no, c'è un amico mio vegano integralista che sa tutto quanto, questo qui non lo sapeva, ci è rimasto male quando l'ho detto. Ah, ci è rimasto pure male questo qua. Esatto, perché beveva il vino tranquillamente, gli ho detto che la vendemmia si fa in un certo modo e quando nei carri si butta tutti gli alci di vino ci sono tutti questi animali. Ma anche quando uno va in macchina ad alta velocità ammazza dei moscerini, ammazza degli animali, per cui dovrebbero anche privarsi dell'autovettura, secondo me, i vegani, se fossero coerenti con se stessi. Però no? Quando vanno a fare l'aperitivo loro devono sapere che quello che bevono ci sono dei cadaveri animali. Scorie animali ovunque. Esatto. Vabbè, esatto. Poi... Quindi non devono più di tanto... No, questo qui volevo dire che loro magari dire solo questo. Pensano soltanto. Bene. Che ma il tuo amico sempre... al tuo amico gliel'hai detto che chiamavi la Zanzara? Io l'ho detto, lui non beve birra perché nella no, ma gliel'hai c'è... detto che avresti chiamato la Zanzara, certo. Per dirglielo? No, non gliel'ho detto perché l'ho visto l'altro ieri, molto pensato ieri. Cioè, pensato, cioè l'hai visto cosa... l'altro ieri, ma poi hai pensato a questa cosa ieri e hai chiamato la Zanzara oggi, capito Parenzo qual è stato il sì, processo sì, no. Mentale? Siamo comunque in una fase cioè, l'altro di ieri oggi la telefonata. Degenerazione mentale, dai. Ma no, ma adesso perché così? Ma come vuoi definire? A dopo, dai, dopo. Dopo, ciao, dopo ciao. Giornale radio. Beh, cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio, devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi, è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in digital... La Zanzara. Parenzo, se in pista ci avesse messo le mani per bene con quel trapano avrebbe fatto un lavoretto fighissimo, eh? Un bel buchetto alla capoccia per mettere un po' di sale nella zucca. Ciao Giuseppe, scusa se disturbo. Hai lasciato qua la tua sciarpina, amore. Vientela a riprendere quando vuoi. Ciao, coccolo. Ma chi è questo? Ma non è vero, non ho lasciato nessuna sciarpa. Che si spiega, si spiega. Ma è impazzito tutto, completamente. Si tutto. Ma fateli sentire questo qua. Ma chi è che manda questi messaggi? È impazzito completamente. Non ho lasciato nessuna sciarpa da nessuna parte. Ciao Giuseppe, scusa se disturbo. Hai lasciato qua la tua sciarpina, amore. Vientela a riprendere quando vuoi. Ciao coccolo. Non ho lasciato alcuna sciarpa a nessuno. Pensa che negli anni 70 io lasciavo semplicemente dei Kalashnikov. No, attento, no, Kalashnikov non telefonavano e lasciavo delle spranghe lasciavo nelle case. Altro non delle sciarpine, delle minchiate per assaltare lo Stato. Questo è l'importante, l'assalto allo Stato. Grazie, a risentirci. Allora, ci sono due cose, due fatti, no, due non questioni. C'è niente. C'è da chiudere tutto. No, ma che chiudi, chiudi tu? Di grande polemica, chiudere, caro Parenzo. Chiudere, perché ormai bisogna chiudere. Cioè, adesso sorprendiamo. Perché non sorprendiamo l'ascoltatore e non chiudiamo qua? Bellissimo sarebbe, no? No, ma tu, ma ne abbiamo parlato prima, sì. Tu sei incredibilmente d'accordo con questa idea folle, fuori dal mondo, di invitare l'ex terrorista Adriana Faranda. Sì, ottimo. Ripeto, spiega il fatto, però, l'ex sennò, terrorista Adriana Faranda, l'ex brigatista Adriana Faranda, viene invitata insieme a un altro ex brigatista che si chiama Franco Bonisoli a partecipare nella sede della scuola della magistratura a un corso di formazione per i giudici sulla giustizia riparativa che si aprirà domani a Scandicci. Ragazzi, siamo alla follia. No, ma mi sembra giustissima la decisione, anche la difesa che il CSM ha fatto ma di questa cosa. Ma non lo so, guardate, perché ragazzi, mi metto a spiegare. No, perché mi sembra talmente evidente, cioè è un corso interno di formazione per comprendere magistrati, le scelte criminali e i percorsi di collaborazione. È un corso, La persona in questione, la signora Faranda, ha pagato il suo conto con la giustizia. Ragazzi, è una persona che come te e come me ha diritto di parlare. Ma ha diritto l'hanno di parlare, ma no, la scuola dei magistrati, l'hanno ritenuta adatta a quel ruolo, perché la sua esperienza, vergogna, la sua vita, dai, il suo vissuto, e anche a parte che la Faranda di ieri non è la Faranda di oggi, è già questo. Ma non come me ne dire, frega nulla. Allora, non va a tenere un corso, non va a parlare alla scuola della magistratura dov'è italiana. Dov'è lo scandalo? Dov'è il problema? Lo scandalo, che è un ex terrorista, complice dell'omicidio Moro. Ma il tema altri... è esattamente quello. Vabbè. Non mi stupisce che tu sei d'accordo, non mi stupisce. No, ma ci vuole della logica. Ma io dico una cosa molto semplice: questi signori, di cui non frega un cazzo a nessuno, per fortuna, e soprattutto non frega nulla al grande popolo della Zanzara, agli ascoltatori della Zanzara. No, al popolo della Zanzara interessa, ai salami che telefonano forse non interessa, ma al grande popolo che ascolta silente. No, i giovani non sanno nemmeno chi è la Faranda. Comunque, è un ex brigatista. Andate a cercarla su Wikipedia o su altre cose. È un ex brigatista colpevole di diverse cose, tra cui l'omicidio Moro. Sì, d'accordo. Ma no, d'accordo un cazzo. No, no, no, sì, è vero, come se fosse una cosa. Sì, non d'accordo. Sono, non d'accordo. No, no, sì, no, no. L'omicidio Moro. Ma non l'ho detto d'accordo. Dai. Non l'ho detto d'accordo, nel senso che sono d'accordo. Ho detto vero quel che dici. Certo, coinvolta nel rapimento, dell'assassinio. Una delle protagoniste di quella vicenda là va certo, a parlare alla scuola della magistratura italiana. Sì. Dai, su, ma come cazzo si fa? Dai. Ma non l'ho capito. Alla scuola di formazione, ma non può formare un cazzo invitata la signora Faranda. Su che cosa? Non può formare un cazzo. È invitata non a parlare può formare di una che cosa? Non può formare ma nulla. Guarda, ma guarda che sei incredibile veramente, Basta. Incredibile. La seconda cosa che trovo pazzesca è questa vicenda che riguarda la Leosini e l'intervista al mandante, cioè al responsabile vero e proprio della famoso assalto con l'acido, lo sfregio che ha deturpato il volto di Lucia Annibali, che è diventata purtroppo per lei molto popolare in Italia, perché poi ha avuto il coraggio di presentarsi in televisione con di scrivere tutte le piaghe, un libro straordinario, un libro, eccetera eccetera eccetera. Allora, la Leosini ha intervistato questo signore con tutti i permessi, immagino, da parte del Dipartimento delle carceri, il DAP. Però la procura di Pesaro, dove si è svolto il processo, dice che quell'intervista non deve andare in onda perché, siccome non è definitiva la sentenza a 20 anni, ci sono solo due gradi di giudizio, le sue dichiarazioni potrebbero comunque essere lesive del diritto della, non so, non potrebbe influenzare parlare, i prossimi influenzare gradi di giudizio la no, Cassazione non lo so, influenzare immagino, la Cassazione Allora io dico una cosa ragazzi, ma questa intervista è stata registrata, qualcuno ha deciso, si è preso la responsabilità, non credo, essendo la Rai, essendo la Leosini, cioè non è la Zanzara che chiama la gente al volo, no, cioè non, è la Leosini che fa tutte le cose con certi crismi, come è giusto per la Rai, no, cioè non è che noi facciamo delle cose illegali, ma facciamo delle cose borderline, non è, la Leosini avrà tutti i permessi, lo sapevano, non è una pazza scriteriata. Certo è strano però, è strano che uno venga intervistato quando ancora non si è chiuso tutto l'iter giudiziario, cioè uno va dalla Leosini a fare questa trasmissione che si chiama Storie Maledette appunto perché sono storie chiuse, maledette, se manca un giudizio, beh, bisogna andare un po' cauti, francamente non capisco, anche il ministro della giustizia quindi è molto capito, sei per bloccare, ma io sono sempre per mandare in onda, io sono sempre per mandare in onda tutto e non me ne frega nulla di niente e di nessuno. Comunque intanto però non sta scritto è da molto nessun... strano è no, molto no, strano no, ma non sta scritto da nessuna parte. Lucia Nibali ha ragione, lei è parte lesa, ha ragione anche di indignarsi, ma il tema non è questo, non so se, non cioè se, il problema non è il grado indignata? Di scusami, chi il problema non è che è indignata, no, magari o essere arrabbiata, non ha detto nulla fino adesso, l'abbiamo chiamata prima nel pomeriggio, ha detto che non vuole parlare, ma immagino che possa anche essere arrabbiata, non lo so, anzi non immagino niente di quel che prova lei, perché giustamente è parte coinvolta, ma che c'entrano i gradi di giudizio però? Si chiama no. Storie Maledette, allora evidentemente no, indipendentemente di solito, dal dico, grado di solito in quella trasmissione, credo, sì, credo, ma non è ci vanno persone così. Ci vanno persone condannate che hanno con sentenza iter definitiva. Giudiziari conclusi ed è sì, per questo vabbè, che ti danno ma... i permessi di farlo. Ghedè ha un iter giudiziario concluso, sta scontando sì, la certo, sua pena certo, certo. Adesso questo signore ancora non ha chiuso la sua vicenda, potrebbe dire delle cose che possono influenzare il giudizio della Cassazione. Il signore che ha sfregiato, ha mandato due tizi, due romeni, non so chi cazzo erano, a sfregiare, sta scontando sì. 20 anni, secondo me pure pochi, di galera peraltro, e c'è l'intervista della Leosini, indignazione, ma non lo sapevate prima signori? Cioè, ma di sì, che no, stiamo parlando? Ridicolo. C'è intervista fatta qualche mese fa sicuramente, no? Dunque tutti lo beh, sapevano. Carte bollate. No, il procuratore di Pesaro che si stupisce, il procuratore di Pesaro dice no è uno scandalo, ma scusa, il fatto che non sia stato informato, non sia stata informata la procura, io non lo so, veramente è incredibile, dai. Allora, Salvatore da Napoli, adesso mi stanno rompendo i coglioni, lo sai perché? Perché pensano che abbia fatto una cosa contro Napoli. Guardate che è una cosa molto semplice. C'è stata una segnalazione che ci è arrivata, la storia della professoressa che si è augurata l'AISEL a Juventus-Napoli, al prossimo Juventus-Napoli. Dice che i tifosi della Juventus se la sono andati a cercare in quel tragico avvenimento che è stato l'AISEL. L'abbiamo chiamata, ha confermato tutto, dice di aver cancellato il post, dice no vabbè sì è vero se la sono andata a cercare, vabbè l'avete sentito, poi magari ve lo rimandiamo in onda. Dicono che l'ho fatto perché sono contro il Napoli, ma qui siamo fuori di testa, c'è stata una segnalazione che ci è arrivata via mail, ho semplicemente cercato il numero di telefono, ho preso il numero di telefono e ho chiamato, punto. Salvatore, dai. Pronto? Sì, dimmi Salvatore. Senti, no, volevo dire praticamente quello che ha detto l'avvocato, la ragazza di Portici, insomma, l'avvocato di Portici, la giornalista. Non è nessun avvocato, è una non so che vabbè, non so che cos'è, sia. È una professoressa, dottoranda, un'insegnante okay. che si augura che una strage praticamente, perché gli girano le palle che non può andare a Torino a vedere il Napoli. Dunque magari ci scappa un altro Eisel che poi se la sono andato sì. a cercare, non mi fanno pena quei morti lì. Cioè, voi avete capito? Perché poi uno deve vietare che quelli vadano a Torino e viceversa. No, ha vietato lo stadio, non hai capito? Dimmi, Salvatore. Ma proprio vietato lo stadio. Sì, Salvatore, bisogna chiudere tutto. E aspetta, vanno vietate dubbio. Per sempre. Meno male, per sempre. No, ma per me figurati. A me non, allora, Salvatore, dimmi, non dai. Problema, a me non è il problema, è la prospetta. A me il problema è che fin quando ci sta libertà e ognuno può dire quello che vuole, perché non deve farlo. Ma che ognuno può cazzata, dire quello che vuole. Che non c'è una cazzata, che sia condivisibile o meno. Vabbè, ma però... che vuoi dire? Scusa, non ho capito. Salvatore, che cosa vuoi dire con questo intervento? No, lei ha detto quello che voleva dire, stop, punto e basta, insomma. Non, vabbè, certo che voleva dire quello che voleva dire, cioè, non si capisce perché ha cancellato questa cosa, poi se è così convinta di quello... E forse perché si è accorta che ci stava... Che no, si è accorta di avere detto una cazzata, poi naturalmente, ma magari la richiamiamo, non ti preoccupare. Maurizio, non aveva un cazzo da dire questo Salvatore. Maurizio, provincia di Milano, dai, adesso sarò spietato con questi sì, qua. Sì, sono io, ciao. Dimmi. Mi senti, ciao. Sì, ti sento Maurizio, ti sento. Sì, io purtroppo ero all'Aisel e dire quella grandissima zoccola della professoressa. Sì. Che non sono andato in cerca dagli inglesi per farmi ammazzare, totalmente nella curva opposta. No, però non diciamo queste parole, per cortesia. No, non diciamo. Io sono il moralista, no, Maurizio, non diciamo queste parole. No, questo, hai fatto questo... un complimento, stai infatti, a dire. No, questo è vero. E anche questo... Salvatore faccio un complimento. Questo è vomitevole. Aspetta, quello sentire, che dici. No, sentire. Ma io sono, figurati, non è che. Questi qua non si immagino cosa c'era in quell'ambiente lì. E non si immagina, e mia madre è venuta con mio padre a prendermi il giorno dopo all'aeroporto a Malpensa, senza che io fortunatamente mi rendevo conto di quello che è successo. Mi hanno abbracciato, sembrava sempre di vedermi da morto per terra. Telefonavo al ministero al numero verde e la linea andava via. Mm. E il giorno dopo mi sono venuti i brividi a rivedere quello che è successo. Sì, e questo mi permette di dire certe cose. Questa grandissima professoressa del mio cazzo. No, ma Maurizio, io capisco la rabbia di Maurizio, perché se uno sente, per carità, sì, la rabbia, perché, scusami, sono arrabbiato dopo 30 anni, figuriamoci. No, ma io capisco perfettamente, Maurizio, perché la questione è molto semplice. Non è un pirla qualunque, almeno per come si presenta. Cioè non è uno che sul web dice, no, se ne sentono tante, eccetera. Questa qua si presenta come una professoressa, addirittura giornalista, perché collabora per delle radio, per delle, non so, per delle agenzie. Beh, no, ma è importante pure questo. E dice che l'AISEL se lo sono cercato, che non mi fanno pena quelli che sono morti, che vogliono, siccome non può andare a Torino a vedere la partita... Allora, Sai cosa proporrei? Che i tifosi della Juventus invitassero solo lei allo stadio domenica. Ma no, dai, vediamo adesso questo non cominciare. No. A parte che la partita non è domenica, non so quando è. Ma no, domenica prossima, il 13 o 14, quello che è. Ma invitiamola così, per prendere in presente quello che è successo e vediamo se poi è ancora la stessa idea. Però Maurizio, adesso non passare dalla parte del torto di quelli che si augurano la morte di questa qua. Cioè, non è quello. Capisco che tu, essendo stata all'AISEL, sei incazzato nero con questa qua, che era una matta, dai, perché era matta questa qua. Dai, ci sono... Però non è una matta, è una matta che insegna. Che insegna a scuola. Esatto, attenzione, appunto. Una matta che insegna a scuola. Questo è interessante. Puoi insegnare anche a mio figlio che ha 15 anni. Penso a te. Fermi lì. Cruciani, sei immorale. La zanzara. Meglio un anno di galera che Parenzo Penasera. Bruciato, sei pervert, questo sei un gran pervert. Allora ragazzi, 800 24 00 24, io direi di ascoltare un altro po' della premiata coppia Brizzi-Zanella, il calvario di un uomo, non so quanto sia vero, quanto sia sceneggiato per creare un libro, un caso, ma in ogni caso va bene lo stesso. La tortura che deve subire un uomo, ce ne sono tanti come Brizzi è famoso, ha fatto un libro tortura, su questa cosa qua. Dici la, beh, tortura. La tortura, ragazzi, l'amore non può arrivare fino all'umiliazione, direi. Ma perché, beh, l'umiliazione, ma se l'è scelta lui, però, l'umiliazione, scusa, è abbastanza evidente, perché anche manifesta, ripeto, non so quanto sceneggiato, quanto reale, ma l'umiliazione è manifesta. A un certo punto lui dice di averla portata, la moglie, a uno spettacolo di magia con le colombe. Senti. Io l'ho portata a uno spettacolo di magia. Ah vabbè, sì, ma quello è stato tremendo. A Roma. È stato tremendo. Uno dei prestigiatori, incautamente, faceva un classico spettacolo. Il coniglio con le colombe. Con le colombe. Lei si è alzata in piedi e ha protestato, certo, durante lo come spettacolo. Come una persona civile, perché ha tirato una colomba e è caduta per terra. Io ho fatto finta di essere fidanzato con una signora anziana che stava dall'altro lato. Ha protestato col mago. Stupendo. Capito? Ha protestato stupendo, col mago. Stupendo, stupendo. Costretto a buttare i maglioni, ma ti pare una cosa normale? Ma io avrei preso a calci in culo dopo 5 minuti, ma non mi rompere le balle, mi metti i maglioni, vado agli spettacoli, vado ai circhi, mangio quello che mi pare, tu mangi quello che vuoi, vuoi brucare l'erba? Bruca l'erba, io mi mangio la bistecca se voglio. Gli ha tolto tutti i maglioni di casa. Tutti i maglioni? Perché i maglioni, Claudietta? Perché sono fatte con la lana. E tu non sai cosa fanno queste povere pecore per levare la lana. Stiamo parlando di una casa dove non entra il miele, povere api. Cioè, nemmeno il miele. No, ma il miele che c'entra? Il miele, amico mio. Che male succede al miele? Io dico solo il miele e basta. Dico solo il miele, che non entra il miele in quella casa. Non entra il miele, dico solo questo. Non dico altro, non entra il miele. Perché evidentemente c'è lo sfruttamento del lavoro delle api, non lo so. Quale sfruttamento? Quelle sono, che cazzo fanno tutto il giorno? Fanno amico il miele, mio, no? Ma qui non si... Tu vuoi cercare un ragionamento logico, ma normale. Le api che fanno quando tutto il giorno se non è il miele? Cosa fanno? La radio, le api? Vanno alla camera, sì, come buon anno, io no? Ti capisco, ma non esiste un ragionamento normale. Ma no, poi io sono dalla parte degli animali, però li c'è rispetto. Lo sfruttamento del lavoro delle api, le quali magari muoiono più in fretta con, ma facendo se non il, fanno miele. Il miele tutto il giorno, cosa non lo so, fanno non mi ricordo api? Qual è il ragionamento sottostante, perché non ho letto il libro e lo leggerò sicuramente per evitare, cioè a scopo preventivo, so quello che devo evitare. A un certo punto dice mia moglie, mi disse mi piaci ma morirai presto, cioè tu ti rendi conto, no? Anche dopo averti detto che morirai presto sì, ma perché aveva mangiato una quantità di latticini che una persona normale mangia in un anno, che cioè, cos'è il formaggio? Formaggio delle cose normali, insomma. Non si può neanche mangiare il formaggio, no, perché è pieno di caseina. Di? Caseina. Ma io dico almeno ti diverti, fai sport, divertisci, cioè non cioè lei preferirebbe un'altra donna piuttosto che stracchino, tu consideri un'altra donna, fai sport, ma certo, ma beh, però fai un po' di sport. Io la prima volta che accadrà, se accadrà, glielo ricorderò sì, ma tutti te lo ricorderanno. Io sto facendo sport. No, però questo è interessante, invece, questo è interessante, perché potrebbe essere veramente una scappatoia. Forse lo sai che preferisco stare con una vegana a questo punto? Perché una vegana come la Zanella, cioè praticamente introvabile, come quella che avete sentito, se non la conoscete, questa che si chiama Zanella. È molto simpatica. Preferisco che mio marito vada con un'altra piuttosto che vederlo mangiare formaggio, questo ha detto, no? Mi sembra. Allora, io quindi dico, tu sei disposto, certo, a questo punto, porco, quale se sei? Ci fosse uno come la Zanella, si faccia avanti. Perché io potrei addirittura fidanzarmi con una che mi dice: beh, guarda, vai con un'altra, basta che non mangi i latticini, basta e che non ti vedo, non ti vedo. E rinunceresti al coniglio? Ha detto che non ti vedo. Vabbè, e non ti vedo. Troppo facile. Tu mangi il riso agli scampi? No, io non mangio gli scampi perché come sai già tu sei un altro malato di mente, sì. Alla grazie. Un altro malato di come mente. Altre migliaia di persone. Alla poche migliaia. Ma riso agli scampi non lo mangi perché sei ebreo, ma in grazie, realtà riso agli scampi sempre, esattamente, vabbè, ma non è un'offesa, no, non lo consideri un'offesa, spero. No, ma come sei ebreo non lo sai che sto facendo un corso di rabbini? Cioè mi sto sentendo un sacco di rabbini su YouTube. Ti ho segnalato, bravo, certo. No, mi hai segnalato un po' di rabbini, ma oltre a quelli che mi hai segnalato, sto sentendo altri su YouTube. Sono dei personaggi, alcuni eccezionali, di grandissima cultura. Bravo. Conoscono un sacco di robe e soprattutto alcuni sono matti proprio dalle gare. No, sono matti. Sì, sono filosofi, pensatori. Ti assicuro che alcuni sono, ma sono matti. Ma conosco bene, dei matti divertenti. Ma qui c'è il bue che dà del cornuto all'asino, cioè da che pulpito parli? Allora, no, se questi ti dicevo sicuramente mi prenderebbero per matto ampiamente. Beh. Allora, uno che mangia il riso agli scampi, perché si dovrebbe sentire colpevole? Secondo me no, uno che mangia il riso agli scampi è una persona normale. Io mangio per esempio il riso agli scampi, buonissimo il riso agli scampi. Cioè tu vedi mangiarlo e dici che ha fatto? Eppure. Cosa succede se quando sei al ristorante al tavolo accanto c'è uno che mangia un risotto agli scampi? Cerco di spiegargli la sofferenza animale che c'è in quel. Tu pensi alla sfortuna di quello che sta al ristorante? Non ci credo. Tu sei al ristorante di bottura e trovate lei. Tu sei lì che mangi, io faccio quello che mangia, vai. Ti dico, sai che cosa c'è in quel riso? Volevo dire che quel riso è un riso sbiancato, perché non è un riso integrale, quindi lei sta mangiando zucchero allo stato puro, e in più ci sono degli animali a cui bisogna portare rispetto perché hanno lo stesso diritto di vivere come noi, e quindi faccio sentire in colpa. Cioè gli scampi sono come noi, gli scampi, i signori scampi sono come noi, non dico altro. 800240024, Vincenzo da Napoli. Cioè tutto questo sembra normale perché ovviamente no, viene presentato in un talk show che è quello di Fazio, la gente ride, no? Sembra quasi comico, no? Ed è comico, per me è estremamente comico. Ma pensate se questa roba qui diventasse la filosofia dominante, la filosofia imperante. È impossibile. Beh, amico mio, no, però no, non è detto. Pensa se questa cosa qui diventasse la filosofia imperante, dominante. Cioè, se questa roba qui diventasse quasi una legge, intanto in quella famiglia vige una specie di tirannia di questa ma roba. Ma quello qua. Se ne può andare, non mi pare ci soffra, però, no? Quello non lo lì. So, innamorato, non lo so. Ci sta bene. Forse ci ha fatto un libro, dai. Vincenzo, vabbè. Napoli, vai, Vincenzo. Sì, pronto, buonasera Cruciani, mi sente? Dimmi Vincenzo. Senta, io sono anni che seguo la sala trasmissione, è la prima volta che riesco a parlare con lei. Volevo dirle che io sono un tifoso del Napoli e mi dissocio totalmente dalla frase detta. Beh, altrimenti la denuncierei all'istante. No, io no, magari qualcuno la denuncierebbe, per cui non è così difficile dissociarsi a parole. Sì. A parole non è non è mai difficile dissociarsi a parole. No, comunque capisco, sicuramente non sei... Ho chiamato per dissociarmi e per dirle che i tifosi del Napoli, se lei li conoscesse, ma credo che non li conosca, non sono così, glielo assicuro. Perché ma noi chi ha detto che sono così? Ma io no? Un momento, mi faccia finire, la prego. Mettiamo degli striscioni ironici, noi ci scherziamo su. Purtroppo l'ha chiamato una cretina e le voglio dire che Portici e tutta la provincia di Napoli, compresa la città, contano 2 milioni di abitanti. Mi dica lei se tra 2 milioni un coglione non lo si trova. Le ha beccato no, la cretina. No, il le punto è un altro. Io faccio la radio e non devo essere, cioè non faccio uno show alla radio e non è che devo fare una stima di tutti i tifosi del Napoli. Mi hanno segnalato però così facendo, lei sta alimentando, ha visto il milanese come ha chiamato subito. Lei ma sta non è un milanese, un odio, è uno, un milanese, amico mio, non è il milanese, ma a me non me ne frega niente. All'Aisel c'erano un sacco di napoletani tifosi della Juventus. Di che stai parlando? Ha offeso anche i napoletani. È chiaro o no? Quando l'anno scorso hanno ucciso il napoletano, sparato in faccia. Ha parlato di questa cosa. Ma certo che ho parlato, non hanno parlato tutti. Ma che vuole che abbia detto? Che hanno fatto bene, ma siamo impazziti. Siamo. Dai, su. Purtroppo, sai qual è il problema? Come al solito, è il benaltrismo. Però in altre occasioni, perché non condanni quello che ha detto questa deficiente? Non basta così. Perché Cruciani, per favore, lei dovrebbe anche parlare tutte le settimane delle bestemmie e degli auguri di morire. Però scusa, ma sono due cose diverse, amico mio. Sono due cose diverse, non c'entra assolutamente nulla. Aspetto che lei lo dica una volta. Che cosa devo dire una volta? Ma io lo dico 100 volte che sono tutte delle follie, ma non c'entra niente. Ho capito, però Vincenzo, guarda, a me l'esame del sangue su questa cosa qua non riesce a farmelo. Sì, però lei se la poteva risparmiare questa puntata su quella cretina, capito? Ma io non è una puntata, stiamo parlando di tutto. Fra pochi minuti, se la troviamo per telefono, avremo la signora Luxuria qui a parlare della vicenda Meloni, lo scazzo tra lei e la Meloni sui froci, sui gay, sui trans, quello che è. Ma di che parliamo? Non è che parliamo tutta la puntata di questo. Vi abbiamo fatto ascoltare la voce di una signora, anzi, fra poco, Vincenzo, la faccio pure riascoltare. Guarda, mi hai dato l'idea per farla riascoltare. Questa signora si chiama Fabiana Pacello, ha scritto, è una professoressa in una scuola, dottoranda in germanistica all'Università di Roma, dunque una signora che insegna ai ragazzi, a qualcuno insegnerà qualcosa, sempre se questa cosa qua è vera, cioè sempre se queste cariche sono vere. Beh, sì, dovrebbero essere vere, come vera lei in carne e ossa, perché non ci credeva all'inizio, poi ha risposto al telefono e fra poco sentiremo. Però la premessa è questa, cosa ha scritto? Non vogliono farci andare allo Juventus Stadium perché si cagano sotto, e fanno bene, perché se ci girano le palle qua succede la seconda edizione dell'Aisel, aggiungo 39 morti. Per la cronaca, io di quella gente, qui è lei che riprende a scrivere, per la cronaca io di quella gente non ho pena, perché penso che se la siano andata a cercare. Pronto? Sì, signora Pacello? Sì, chi è? Sì, buonasera, qui Milano. Mi dica. Salve, buonasera. Ho letto un post su Facebook. Sì, mi dica. Sul Juventus Stadium. E allora? Beh, mi sembra piuttosto grave. L'ho cancellato. Ma perché l'ha scritto? Non lo so, l'ho scritto e basta. Ma voi chiamate da Milano, ma di preciso chi siete? Radio 24, salve, buonasera. Non avete un cavolo da fare? Non vogliono farci andare allo Juventus Stadium perché si cagano sotto. Vabbè, fin qua ci siamo, no? Scusate, ma voi che ve ne importa di quello che ho scritto io? Non vi conosco, non vi voglio rispondere. No, ma scusi, scusi l'aggressività del collega. Intanto scusi. Buonasera, sono Parenzo. Sì, mi dica. Ecco, scusi l'aggressività. Che cazzo le è venuto in mente di scrivere? Scusi l'aggressività del collega. Ma a lei cosa importa? Stiamo facendo roba confusa. Le ripasso il collega, però calmiamoci. Prego. Allora, lei ha evocato l'Aisel, ha capito? Cioè, se ci girano... Ma evocano sempre il Vesuvio, allora? Ma se ci girano le palle, facciamo un secondo Aisel. Lei fa la professoressa. Cioè, non è una persona qualunque. Cioè, fa anche la giornalista, la professoressa. Ma le pare normale? E le pare normale quello che scrivono sul Vesuvio tutti i santi giorni? Sì, ma lasci perdere il Vesuvio. Se ci girano le palle, qua succede la seconda edizione dell'Aisel. E poi dice che lei addirittura dice che se la sono andata a cercare. Non si può dire più quello che si pensa. Lei pensa davvero che i tifosi della Juventus se la siano andata a cercare, l'Aisel? probabile. Ma come probabile? Ma sono stati... Cioè, ci sono 30... oltre Marco 30... si pente. Cioè, lei non si pente di questo post? Senta, ma lei cosa importa? Io non la conosco, non la voglio conoscere. Mi lascia perdere cortesemente. Ma non scusi, si vergogna signora, calmiamoci, no, calmiamoci, perché qui mi pare che ci sia un clima un po' agitato. Scusi, signora. Sì, scusi, sì. Il collega. Senta, per... io ho da fare, a differenza vostra. No, scusi, scusi. Luciano da Vicenza, vai Luciano. Sì, pronto, buonasera Cruciani, buonasera. Dimmi, parente. Dimmi Luciano, dimmi. Sì, non è mia intenzione far polemica o continuare la storia con Luxuria o la Meloni. Volevo solo capire come la pensavi tu. Cioè, Luxuria ha augurato alla Meloni sì. Tanti auguri e figli trans. Sì, è una battuta secondo me. Comunque fra poco la sentiamo. Ma una battuta, però mi piacerebbe capire cosa vuol dire. Perché non ma ho niente, non lo so, adesso fra poco sentirai dalla viva voce di Luxuria perché ha fatto quella battuta. Benissimo, allora spero che lui senta la mia domanda così mi risponderà. Io ascolto sempre la tua trasmissione, mi piace tantissimo quando c'è quel tuo amico prete, in cui l'ultima volta avete parlato anche sì, di Farinella. Questa cosa. Bravissimo. Vabbè, allora bravissimo. Allora, io voglio dire una cosa. Ti invitiamo noi. Bravissimo. Mi sembra che la cosa peggiore che si può fare a un trans, a un gay, sia dire che è una malattia, che è una disgrazia. Bravissimo. Quello che via... Bravissimo. Giusto? Bravissimo. Allora, giusto. Ma allora Luxuria che genere di auguri le ha fatto? Di avere una disgrazia? No, perché ma no, allora io non lo so perché non l'ho sentita, ho sentito delle spiegazioni in altre interviste che ha rilasciato, però adesso viene qui da noi, anzi forse credo che... Ce l'abbiamo? Caro Parenzo, c'è una polemica, oggi ne abbiamo parlato anche all'inizio di questa trasmissione, una polemica che riguarda la signora Meloni e Vladimir Luxuria. La Meloni è stata insultata perché ha annunciato durante il Family Day di essere incinta. E Vladimir Luxuria in realtà non è che ha insultato la Meloni, ha fatto una battuta su Twitter ed è stata praticamente minacciata di morte da quello che si sa. Qual era la cosa? Vladimir, ciao intanto, ciao. Salve, auguri ciao. E figli trans pure a voi. No, aspetta, no, scusa, auguri a figli trans pure a noi. No, aspetta, andiamo con calma. Io non ho nessun problema, cioè se mia figlia dovesse... mia figlia è femmina, dunque al massimo può diventare uomo, diciamo, no? Se io avessi una figlia, un figlio che vuole diventare... Io ho un maschio, adesso se Dio vuole deriverà un altro, però francamente... Cioè, no, se diventano dire, tutto... trans, si chiamano trans anche le donne che diventano uomini. No, ma guarda, i miei hanno sì, è vero, però tutto, più raro, tutto regolare, sì. Guarda. Tutto regolare. Come hanno. Tutto regolare? No, che significa dire, regolare? Poi beh, mio figlio, ciao. Se dimmi la verità, però, devi essere onesto come nel caso della prostituzione. Se tuo figlio... Mi se dispiacerebbe tuo un po'. Ma non so cosa... Poi gli starei vicino, lo aiuterei, capirei. Capito? Però quelli più di sinistra, Vladimir, no, quelli più di sinistra sono i più moralisti su questa cosa qua, eh? Non c'è niente da fare, o no? Allora, io ho fatto un tweet, una battuta in realtà. Ho scritto la Meloni è in dolce attesa, auguri a figli trans. Sì. È una battuta che io faccio sempre, tutte le volte che una mia amica che venga a sapere che è una incinta, dico sempre auguri a figli trans, perché una volta si diceva auguri a figli maschi, poi le donne hanno cominciato a dire ma perché uno deve dire auguri a figli maschi, ma che avere una figlia femmina è una disgrazia, e le donne hanno cominciato a dire no, si può dire anche speriamo che sia femmina, auguri a figli e figlia femmina, eccetera. E io facevo sempre una battuta, beh, a sto punto allora pure io posso augurare, no? Auguri ai figli trans. In realtà io non è che stavo augurando alla Meloni. Cioè, non stavi augurando alla Meloni di avere un figlio transessuale. Ma scusa, allora, non è che c'è un'intelligenza superiore per capire che era una battuta. Io non è che auguravo... No, effettivamente, auguri a figli trans non mi pare questa cosa così offensiva. Dai, su, adesso, per carità, va bene tutto, ma non mi pare un'offesa, ecco, dai. Ecco, io ho fatto semplicemente una battuta, ripeto, io non auguro... I figli vengono come vengono e bisogna amare come vengono. Esatto. Quindi non era quella battuta. Anzi, io ho trovato un po' contraddittorio... Che la Meloni dicesse, guarda, io se pure avessi una figlia trans, la amerei comunque come madre, E poi invece che si è così risentita da questa battuta da dire che io sono cattiva. Sì, sei cattiva, ha detto che sei allora, cattiva. Allora che vuol dire? Allora la prende come una specie di attura, di minaccia, di una disgrazia, di un cataclisma. Beh, probabilmente non le, farebbe, non le farebbe piacere avere un figlio transessuale, su questo non c'è dubbio. Pure al figlio transessuale non piacerebbe avere come mamma una come la Meloni, che c'entra? Non si scelgono i figli come non si scelgono le madri. I figli bisogna amarli per quelli che sono e i figli si prendono i genitori che sono. Ah, tu dici io che un figlio trans, a un figlio trans non farebbe piacere avere una che ha la le posizioni della Meloni? No, no, guarda, se io dico solo una cosa, l'hai ho detto. Fatto una battuta, se un mondo non riesce a distinguere quelle che sono le battute. No, ma questa però è una battuta, però se inserisci. Mi sembra che la Meloni, a questo punto, visto che va al Family Day, dove si sanno le posizioni del Family Day, che bisogna essere sposati, io dico che secondo me la Meloni un po' c'è. Posso dire una cosa un po'? Un po'? Insomma, ci sto un po' manipolando tutto questo, lo sto un po' strumentalizzando, perché credo che è chiaro che se una donna che non è sposata va a annunciare che è incinta non da Barbara D'Urso ma al Family Day, io penso che debba mettere un attimino in conto che ci possa essere qualcuno che possa fare una battuta sul fatto che lei non è sposata. Ma l'ho detto anch'io, se uno non va in televisione. Esatto, non è che devi fare, oddio cosa hanno detto. A me mi dà fastidio tutti quelli che hanno scritto che io ho insultato la Meloni perché è incinta, che mi hanno scritto che io sono invidiosa delle donne perché io non posso partorire. Ma tu sei invidiosa, perché non puoi partorire? Mi hanno scritto che devo morire, che mi hanno minacciato di morte, ma io non sono invidiosa delle donne, assolutamente no, le donne non sono mie concorrenti, le donne sono le mie amiche, le donne sono le mie complici. Beh, un po' sono concorrenti, con i maschi sono concorrenti, non c'è dubbio. Ma che? No, assolutamente no, guarda, abbiamo altro da offrire, veramente credimi, credetemi, ve lo dico proprio col cuore in mano. Non intendevo assolutamente offendere nessuno. Era anche persino affettuoso questa cosa di dire oh, auguri a Filita, lo dico sempre. Tu diciamo la verità, se vai ad annunciare, questo credo di interpretare il tuo pensiero in questo modo, se vai ad annunciare al Family Day davanti a tutte le telecamere, tutte le televisioni, che aspetti un bambino e stai strumentalizzando la tua gravidanza. Un po' politicamente sì, perché tu vai al Family Day a proprio in quanto adesso ho scoperto di essere incinta, capisco ancora di più i diritti dei minori, eccetera. Che non c'entra niente, che non c'entra nulla. Esatto, investendo un po', diciamo, di valore politico alla tua gravidanza. Per carità, ognuno è libero di. Però utilizzi la tua gravidanza per propaganda politica, questo tu dici? Ma secondo me sì, perché altrimenti non lo vai a dire. Sì, no, ma questo qua ci sta. Ma infatti. È una cosa così intima, così anche bella, se vogliamo, no? Uno che va a dire una cosa, una manifestazione politica, un minimo se lo deve aspettare e ci deve essere una reazione. Certo, non mi piacciono gli insulti sessisti. Vabbè, ma quello siamo tutti d'accordo. Cioè, ma io devo commentare, devo dire quello che ho detto io, devo dire anche quello che ha detto il Tizzetto, non fa una piega, voglio dire. Diciamo che, a parti invertite, un politico di sinistra incinta, che diciamo comici o giornali di destra che si scatenano in ironie e in volgarità, sarebbe successo il finimondo. Questo bisogna dirlo, cioè, questo bisogna dirlo. Ma forse se fosse capitato in un altro periodo, tipo non in questo in cui si parla di adozioni, di stepchild adoption, di diritti civili, forse la stessa Meloni si sarebbe fatta una risata sopra. Non voglio pensare che la Meloni sia così triste da non capire che una battuta. Comunque non devi chiedere scusa. Ma perché devo chiedere scusa? Ma io chiedo scusa quando so di aver commesso uno sbaglio. Se io faccio una battuta, persino secondo me affettuosa, come faccio sempre. Era una battuta affettuosa, sì. Auguri a figli trans, ma che cos'è? Ma ragazzi, ma mica è un augurio di una sciagura, No, cioè, ma infatti, forse qualcuno l'ha presa così, però. Forse lei l'ha presa così. Senti, ma secondo te quanti omosessuali c'erano all'interno di quella manifestazione del Family Gay? ma guarda, io questo non lo so perché non è. Però mi hanno detto che sono esplosi i Grindr. Sai, queste applicazioni che io chiamo i navigatori sessuali del sesso, no? Tu metti questa applicazione e diventi una specie di radomante del sesso. Sì. Cioè, quindi praticamente sai a quanta distanza c'è il primo gay. E pare che, insomma, quelli che l'hanno acceso al Family Day, suo Grindr ha avuto parecchie... Era intasato. Anzi, forse se non ci fossero stati gay sarebbero stati anche di meno. Appunto. Altro che 2 milioni. Vabbè, ciao! Ciao, Vladi! Ciao, Vladi! Auguri a figli trans! Sì, ciao. sempre. Sì. Paolo da Salerno, Paolo vai. ciao, un parente. Ciao, ciao, Luciano. dimmi. Senti, ciao, io non sono d'accordo con voi stasera, perché avete fatto una trasmissione un po' troppo antimeridionale. Oh, ecco, eccone un altro. Aridai le vostre cose, Paolo, eccone su, dai. No. Ma quale sarebbe la trasmissione antimeridionale? Con l'assistente ho usato forti parole, troppo forti. Però non si fa così giornalismo. Non si fa così giornalismo. Invece ce lo dici tu come fare giornalismo. Ce lo dici tu come fare la televisione. Non si può manco criticare una persona solo perché è di Napoli, capito? Cioè ormai siamo talmente al delirio. Ma guarda che è incredibile. No, aspetta, non dire cazzate. Allora, se dobbiamo parlare il più coglione io di faccio Napoli, parlare chi mi pare. Dai, a parte che io faccio parlare chi mi pare, non me lo devi dire tu chi devo fare parlare, chiaro? Non mi dici tu chi devo fare parlare. Sei giornalismo un coglione. Sì. Sei anche tu. Vabbè, un coglione. Ma tu puoi dire quello che ti pare. Tu sei libero qui. Addirittura mi puoi anche insultare, capito? Siamo talmente liberi, siamo talmente oltre le minchiate che dici, che mi puoi anche insultare, chiaro? No, non sono minchiate. Sì, stai dicendo delle minchiate perché abbiamo fatto parlare una persona che ha un minimo di ruolo. Allora dobbiamo parlare anche dell'assenteismo, che hai detto che è tipico meridionale. Non ho detto che è tipico meridionale. No, tu questo hai detto prima. Ho detto un'altra cosa. Ho detto che detto i casi. Questo, ho detto che i casi. Ho detto che i casi che sono venuti alla luce, chissà perché sono venuti. Comunque non è che lo dico io, vai a vedere termini. I giorni di malattia, dove sono presi di più, dove li prendono di più, se al sud o al nord. Cioè vatti a vedere i giorni di malattia. Ma tu queste statistiche le hai alla mano? Certo che ce l'ho alla mano. No, ma non ti preoccupare, sono uscite anche recentemente. Dove? Guarda, dovete finire di dire queste stronzate per radio. Sì, invece quelle che dici tu sono tutte cose corrette, cioè, sono tutte. A parte che non dici nulla, per cui, cioè, per cui ti limiti semplicemente a dire che sono un coglione, perché abbiamo fatto sentire dalla viva voce, di una deficiente. Perché la quale, così si chiama? Perché cioè, non è deficiente. Che abbiamo, la quale siamo però, su questo? È una cretina che non andava fatta parlare. No, non andava parlare. Lui ha deciso che non andava fatta parlare. Cioè questa scrive un post pubblico su Facebook, lui, alza il ditino, gira il telefono e dice non doveva parlare. Dai. Ciao ragazzi, io sono etero ma sono frocio della zanzara. La zanzara. Ascoltare G era un godimento da ringrullire. Ascoltare la zanzara gli è un godimento da rimbecillire. Tutte e due insieme. Le è un'esperienza orgiastica. Allora continuiamo con gli ascoltatori. Dai, 800 24 00 24. Dove andiamo? Andiamo a Milano. Cristiano, vai. Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Niente, ciao. Volevo dire, ma ti immagini se questa signora di Napoli che ha pubblicato su Facebook auguro che tutti gli juventini un altro Heisel avesse detto auguro tutti i gay di morire bruciati, perché c'è questa nuova setta che sono gli eterofobi. Cosa ne pensi? Ma sì, probabilmente sì, ci sarebbe il lavoro. Sì, oggi ci sarebbe il suo peso. Oggi si può dare della prostituta, di tutto, ma non si può dare del finocchio a nessuno. Cioè tu dici che se questa qua avesse scritto bisogna bruciare i gay sarebbe stata cacciata dopo due secondi, siccome ha detto bisogna si è augurata un altro Heisel in sostanza ai tifosi della Juventus, non succederà nulla. Beh, vedremo innanzitutto, vedremo. Mi auguro che la licenzi, no? vedremo. Andrea, provincia di Vicenza, dai. Sì, ciao Giuseppe. ciao Andrea, dimmi. Ascolta, io ti volevo dire solo che secondo me dovresti fare una cernita dei radio ascoltatori che ti contattano. Che vuol dire, scusa? Una cernita. Perché dopo aver sentito quel pazzo che ieri sera aveva avuto un rapporto gay, sentirlo parlare mi ha fatto veramente pensare quanta ignoranza c'è qua in Italia. Perché, scusa? Per amico mio, quello in primo luogo nella maniera in cui si è espresso, eh, proprio indelicato al massimo. Vabbè, poi che cosa vuol dire, Andrea? Non ho capito. Il moralismo di questo Veneto mi piace molto, beh. No? Cioè, Andrea, è quello stava descrivendo, nei dettagli quello che... Una porcheria, ha ragione. Sì, un rapporto che aveva provato, almeno così, così. Parenzo, a... shalom, Parenzo. Vabbè, ragazzi, shalom. Ma chi se ne frega, dai, Francesca da Verona, dai, Francesca da Verona. Che gente, sì, però. Buonasera. Dimmi, Francesca. Allora, no, voce giovane sta solo... Francesca, però. Sì. Quanti anni ha sta ragazza? 21. 21 anni e ascolta la radio? La Zanzara? Sì, in sessione d'esami è l'unica consolazione. Ma lei, 21 anni, cara, deve ascoltare programmi che, come dire, più educativi. Sei cretino, sei impazzito, questo è impazzito completamente. Dai, dimmi. Volevo dare un consiglio, mi permetto di dare un consiglio a Cruciani. Sì, sì, 21 anni. Lo ritengo un uomo intelligente, affascinante, però potrebbe esserlo di più se si sistemasse il dente. Oh, questo dente. Vedi? Vedi? Costo dente, guarda che palle, Francesca, amica mia. Che, 21 che anni che la ragazza, dica? E anche di gusti discutibili, visto che potrebbe dire più affascinante. Però coglie nel segno sulla ma vicenda no, del dente. Ma il dente ormai è così, cosa vuoi... Cosa studia magari lei, cara? Magari dal dentista di Parenzo. Ma no, ma guarda, può darsi che me lo faccia sbiancare, però non lo so, vediamo, dai, vediamo. Farò una grande dichiarazione pubblica, no? Forse no, anche lo paghiamo. Potremmo poi che facciamo una raccolta fondi per no, potremmo seguire passo dopo passo lo sbiancamento bellissimo. Del dente. Possiamo fare anche una raccolta fondi se vuoi. No, non c'è bisogno, per fortuna me lo posso pagare da solo. Con la raccolta fondi possiamo fare. Me lo posso pagare da solo. Cara Francesca, cosa studi? Lingue per il commercio internazionale. Lingue per il commercio internazionale. A cosa cazzo serve questo insegnamento? Lingue per il commercio internazionale. È il futuro. Lingue, cioè, punto. Ma no, non lingue finalizzate alla conoscenza delle parole del commercio internazionale. No, mi fanno andare ottimo. I matti. Gli insegnamenti dei universitari mi fanno andare lingue per il commercio internazionale. Ma questo ha un senso, perché il commercio ha delle parole tecniche specifiche. Cioè, fa lingue in realtà. La facoltà è lingue. Beh, Francesca, è molto che facoltà sì. È? Sta roba. Lo vedi? Sì, sì, è lingue, solo è lingue. Che è economico. Poi ecco, sì, te la rispolverano un po'. Sono parole specifiche da utilizzare. Ma te la mettono ma così. Ma non è che tu vai dai cinesi e dici, sì, vabbè, traffico, dai, vaffanculo, coglione. Non no, è ma così. Te la mettono così, no, te la mettono così, lingue per il commercio internazionale. Ma sì. Cosa vuoi, cazzo, che insegnino il commercio internazionale? Che cosa vorrebbe fare lei da dai, grande, su, cara? Che vorresti fare? Cosa ambisce a fare? La linguista, forse? No, la linguista, nel senso l'esperta di lingue internazionali, dico, non fraintendiamo. Immaginavo. No, mi piacerebbe lavorare nel commercio internazionale. Ma che vuol dire? A me mi fanno impazzire le persone che non sanno che cazzo... No, anch'io ero così, però... No, io ho sempre voluto fare il giornalista, no, io, anche al liceo. No, io è venuta dopo la cosa di fare il giornalista. Però, Francesca, non ho capito bene. Che vuol dire lavorare nel commercio interno? Non vuol dire niente. Ma come non vuol dire niente? Mi piacerebbe gestire le relazioni all'interno di un'azienda che fa esportazioni. Che mi pare ottimo, è un tema che peraltro riguarda questa radio. Qualsiasi azienda. Vedi. Qualsiasi azienda, basta che si gestiscono delle relazioni che hanno a che fare con lei. Certo. Io divento pazzo per questa cosa, però. Divento pazzo, vado al manicomio per questa perché roba. Perché devi così? Voglio gestire la le relazioni di internazionali paese. Di Roma. Ma che vuol dire niente? Non vuol dire. No, ma scusami, tu fai le pulci a una studentessa e quando chiama quel pazzo di sai cos'è? Sai cos'è? Lo sostieni fino in fondo. No, ma guarda sostengo. Che sei matto forte. Chiama una studentessa di 21 anni che ti dice faccio il commercio, le lingue internazionali, non so che cazzo, le lingue. Appunto, eccetera. Non lo sai nemmeno tu. Che roba, incredibile. Chiama Maura. Sai chi è stato? Sai chi è stato a rovinare il dente a Cruciani? Sai chi? Ma che c'è? De Benedetti! No, veramente non c'entra in questo niente, De Benedetti. È stato uno che è stato lui! De Benedetti! Ma non c'entra niente. De Benedetti, francamente, non so se c'entra. E gli dai corda, mentre a sta signora, sta ragazza, che è il futuro, perché tu sei il futuro, cara. Tu sei il futuro di questo paese. Sei il futuro, sei noi. Ma sì, può darsi che sei sia la speranza. Ma adesso non fare il coglione. Sei la speranza, quindi studia, non ascoltare la Zanzara, perché no, questo ma è come non ascoltare la Zanzara? No, perché è diseducativo. È diseducativo. Ascolta Focus Economia, no. Programmi storici no, come il Mix 24. No, Mix 24. Cos'è? Al massimo il mattino col signor Milan che ti dà questa sventagliata sulle notizie del giorno. Ma la Zanzara è un posto dove c'è puzzo, odore, sangue, merda. Non è per giovani menti che devono andare via da questo invece paese. Adesso lei perché ti spiegherà signora Francesca da avere una 21 anni, sì, studentessa di lingue per il commercio con l'estero, che ripeto, sì, io ancora non ho capito una mazza. Vabbè, di cosa non è difficile dire. Però non ho capito, amico mio, le università italiane spesso si inventano i corsi, si inventano le facoltà. Quella è una professoressa, questa è una professoressa, ancora no, è una studentessa di lingue. Poi vabbè, ci sono degli altri insegnamenti. Francesca, perché ascolti La Zanzara? Questa è la domanda di Parenzo. Perché ascolto La Zanzara? Perché cioè, trovo interessanti comunque gli interventi, comunque anche una discussione alternativa rispetto ai temi di attualità. Sì, non mi farà mosciare però le balle, cioè, Francesca, non mi fare cadere le balle fino al terreno, fino al pavimento. E poi perché c'è il mio fidanzato che diciamo che è patito per la vostra trasmissione. Bene, quanti anni ha, signore, qua, il tuo fidanzato? 21. Ma pensavo dicessi 62, allora no, lì catturavi la canzone, no, di Cruciani. Sì, 21, è banale. 52. È banale, sì, effettivamente 21 è di una banalità. Te vuoi mettere uno, metti uno di 20 anni di più? Ma anche lui a costringermi a chiamare. Sì, pure. Ecco, senti la domanda di così, ma voi fate sesso ascoltando La Zanzara? Ma che so già che la faccio io per evitare. Me l'hai messa la faccio io per evitare. Allora, Francesca, so che avete fatto sesso qualche volta? No, ma me l'hai fatto ricordare tu, sennò avrei chiuso già la telefonata. Siccome sapevo che saresti arrivato Francesca, là, ho anticipato. Allora, dopo avermi consigliato di modificare il mio dente davanti, perché altrimenti, perché in questo modo sarei secondo te più affascinante, voglio chiederti se almeno una volta voi vi siete uniti, adesso ecco, uso termini un po' strani, vi siete uniti, avete unito i vostri corpi, avete intrecciato, bravo, i vostri corpi, si è capito, durante una puntata della Zanzara. Pronto alla radio questa? No. Non è la facoltà di lingue, no, per il commercio con l'estero. No, non è mai successo. È l'interrogazione. Cioè, si deve anche parlare, insomma. Non alla è mai radio, accaduto, no? Questo. Però, Francesca, non è accaduto. Vabbè. No. Avete scopato con La Zanzara o no? Questo, ecco, te lo dico in maniera più chiara. L'avete fatto o no? L'avete fatto o no? Non l'avete fatto. Detto provvederemo. Provvederemo. Allora, chiamatemi quando lo fate. Ciao. Christian da Piacenza. Ciao, Christian. Non c'è speranza, dimmi, Cristian, questo paese, se i giovani ascoltano questa trasmissione, non c'è speranza. Dai, forza. Ma Parenzo, perché devi dire che non deve, i giovani non devono ascoltare la trasmissione? Ma che cazzo, perché dai, è matto, perché non è normale. Cioè, ah, ok. Ecco. Allora io dico una cosa, i giovani devono dissertare totalmente fuori onda. Tutti i giovani sotto i 50 devono dissertare la 7 la domenica sera. Abbandonate completamente. Per curiosità, vedrai che lo guarderanno. Io dico invece che la gioventù, tu che è il futuro di questo paese, non può ascoltare un programma così degradato. Ah, è degradato, capito. Vabbè, con chi sono al telefono? Avanti, chi è questo qua? Christian, chi è? Sempre Christian. Niente, io volevo solo intervenire sulla diatriba adesso, solita cosa che viene fuori, nord e sud. Adesso capisco benissimo che i napoletani si sentono offesi perché avete fatto una trasmissione cattivissima nei loro confronti. Però è anche vero che qualunque cosa che si dica comunque non sempre saltarci addosso. Cioè, ma noi che c'entrano i napoletani? Sì, napoletani, è quello che ha chiamato prima. Ma non c'è, ma infatti non c'entrano nulla i napoletani. Le persone sono le singole persone, non i napoletani. A me non me ne frega niente dei napoletani. Probabilmente gli stessi commenti li potremmo sentire, li potremmo vedere, li potremmo leggere di un qualsiasi ultra o matto di un'altra squadra. E l'unica cosa un po' diversa, non è che sono andato io a cercare adesso andiamo nei forum dei tifosi del Napoli troviamo un pazzo che invece contro la Juve, non ho fatto questa operazione qui perché non me ne frega niente e durante la giornata penso ad altre cose. Mi hanno segnalato questo caso, sono andato a controllare questa signora, questa ragazza che è una professoressa di un istituto e anche una dottoranda, almeno così dice, in germanistica. Mi sembra che di germanistico ci sia poco in quella telefonata che abbiamo ascoltato, la quale ha scritto delle cose, secondo me, di una gravità inaudita. Sì, sì. Cioè, sull'Eisen, sui morti, su... questo punto, basta. Cioè, è molto semplice. Luigi, Brescia, vai. Sì, pronto, buonasera. Io volevo rilasciare un intervento su quello che ha detto un vostro ascoltatore poco fa da Napoli. Riguardo all'assenteismo nelle regioni meridionali che è più elevato. Allora? Rispetto, ma questo mi sembra scontato. Ma infatti io penso che sia un fatto culturale più che fatto culturale. Adesso siamo arrivati al fatto culturale. Avanti. Il fattore culturale. Io divento pazzo. Il fattore che non vuol dire un caso. Quando voi sentite un fattore culturale, state sicuri che non significa una mazza. Cosa significa, Luigi? Vediamo se ce lo spiega. Il fattore culturale. Tu ha abbassato giustamente un po' il risultato. Pubblicità. La Zanzara, patrimonio mondiale dell'umanità. E anche la figa. La Zanzara. Cruciani, la mia ragazza mi ha mandato a comprare le bacche di Goji. Se mi fa perdere la zanzara, mi incazzo come una bestia! L'azienda per la quale lavoro dovrebbe darmi una bella promozione. Quando vi ho nelle orecchie, produco come un toro. Allora andiamo a Napoli da Rosario, vai Rosario, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Allora, ascolta, senza se e senza ma, quella persona che ha detto quella cosa, quella professoressa, è una emerita idiota. Io vi dico che quella persona possa insegnare anche ai miei figli. Vabbè, e punto qua, e qui dovremmo chiudere la discussione in teoria, no? E invece no. Perché come diciamo a Napoli, a ti piace sputtere la mazzarella di San Giuseppe. Non ho capito, scusa, spiegami bene, parla in italiano un attimo, in italiano, una cosa comprensibile. La mazzarella di San Giuseppe è italiano. Sì, sì, no, ma ho capito, ma evidentemente è un'espressione che non conosco, scusami, cioè, abbi pazienza, cioè. Non hai capito le. No, non ho capito, spiegamela, spiegami, che è meglio, dai. Siccome tu hai trovato, sì, cioè, un argomento che sì, fa fare, secondo me, audience, non lo ma so. Io non lo so se mi fa fare audience, mi stuzzicava questa cosa. C'è una signora che ha risposto al telefono, una cosa che mi hanno mandato di una professoressa su Facebook. Guarda là, ti hanno mandato proprio l'espressione di una stupida. Ma a te che cazzo te ne frega? Ma a te che cosa te ne frega? Ma a te che te ne frega? Ma a te cosa te ne frega? A te cosa te ne frega? A me me ne frega. Perché? Perché? Perché non vai a vedere quando segnalano, per esempio, che debbono morire i torinesi di Superga, quando debbono morire? Fai anche una bella, non te le segnalano mai queste cose qua. Ah, no, ma ci saranno sicuramente da parte anche di persone così, ma non faccio il rabdomante, no, il rabdomante del web, ad andare a cercare queste persone. Non me ne frega, perché questa non cosa me ne frega, qua, l'hai deciso tu, non me ne frega. Certo, vabbè. Certo, è perché non sfruculia, capito? Non ti fa non niente, sfruculia, la gente non chiama, la gente non si incazza. Ma io non lo so se non si incazza, semplicemente, ma perché non ti limiti a giudicare quello che ha detto questa signora? Peraltro professoressa e dottoranda. È un'emerita idiota. Basta, punto, non c'è altra cosa, non c'è nessuna, non c'è nessuna politica contro Napoli, non c'è nessuna posizione pregiudiziale contro Napoli. Ma non è una politica contro Napoli, perché tu non è, scusami, non sei nemmeno all'altezza di fare una politica all'altezza contro Napoli. Vabbè, non sono all'altezza. Sei un semplice giornalista. Invece tu sei un genio, invece tu sei un genio, invece tu sei un professore. Io sono uno che ti ascolta, anzi sono pure masochista perché ti ascolta. Gusto. Sì. E quindi è solo per questo. Non puoi fare una politica contro me, non sei all'altezza. Non sono all'altezza. Bene, dopo avere. No, guarda, ma non me ne frega di quello che tu dici, di quello infatti, che tu dici, no, infatti, della tua opinione, deve... della tua opinione su di me, se sono all'altezza o non sono all'altezza. Io me ne sbatto, me ne sbatto, capito? No, mi importa sul fatto, sulla cosa, su quello che, di quello che penso. Scusa, ma se non ti importano le opinioni di chi ti ascolta, no, che cazzo, allora ho detto un'altra cosa, non è che non mi interessano le tue opinioni. Mi interessano le tue opinioni, ma quando uno dice tanto tu non conti un cazzo, cioè non, sostanzialmente hai detto questo, tanto tu, cioè non, cosa mi interessa di quello che dice? Cioè, non è che prendo questo insulto come una cosa seria, la prendo come una cosa detta così per rabbia, non so per quale motivo. Ma non la dico per rabbia, dico io soltanto che tu da furbo hai trovato un filone che è Napoli, dove per esempio ma quale filone? La gente si appassiona a una discussione. Ma come si fa a dire una stupidaggine? Se per quale filone? Se uno dice una sciocchezza ed è di Bergamo, ma dice una sciocchezza, ma non perché è di Bergamo. Le sciocchezze le dicono solo i napoletani. Ma chi ha detto questo? Chi l'ha detto? Ma chi l'ha? Io ho sostenuto questo? Ho detto questo, Rosario, che le sciocchezze le dicono solo i napoletani? Ho detto questo? No, hai sottolineato che una stupida napoletana. Beh certo, mica è di cosa, mica è di. Non è di Vercelli, fino a prova contraria. È importante in questo caso dire che era di Napoli, perché si parla della partita del Napoli. Ma guarda che veramente capito, incredibile. Scusami. No, siccome no, detto si che parla della partita del Napoli, dunque è normale sottolineare che fosse napoletana, insomma. Cioè, non comunque, mi pare una cosa strana, non c'è nessuna posizione pregiudiziale contro Napoli, dai, smettiamola. Comunque, no, ma figurati, ascolta, dico solo una cosa, penso di venire all'Olimpico a darti tre pallette. Ma chi se ne frega, lo sai, io me ne frego totalmente, lo sai, me ne frego totalmente, ciao. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, traffico, no. La Zanzara. Mi sono appena lasciato con la mia ragazza e sono molto triste. Devo dire che la Zanzara è l'unica cosa che veramente mi tiene ancora in vita. Bevo tutti i giorni per dimenticarla e la Zanzara è l'unica cosa che evita un po' il mio suicidio, no? Quindi vi ringrazio, bacioni da Buenos Aires, ciao. Allora ragazzi, è un po' di tempo che volevo chiamarlo, caro Parenzo, perché ha scritto un libro, sì, che è un libro che è diventato culto tra moltissimi nostri ascoltatori, che lo hanno praticamente consumato molto velocemente. È un libro uscito da qualche mese già. Addirittura. Beh sì, da qualche mese, però ripeto, è stato compulsato, mi hanno mandato delle citazioni, eccetera, eccetera, perché dicono che corrisponde esattamente alla mia filosofia di vita, anche se i personaggi sono chiaramente molto diversi. È con noi Roberto Gervaso, buonasera, buonasera. Buonasera. Come stai Roberto? Vedi, la zanzara a me da prurito, però mi diverte molto. Ah, ti diverti? Non siamo troppo sboccati? Non siete troppo? Non siamo troppo sboccati? Beh, lo siete, ma io preferisco la sboccataggine all'ipocrisia. Beh, questo è fondamentale. Allora, grande personaggio, il libro è questo, breve, straordinario. Breve corso di educazione cinica. La vita è troppo bella per viverla in due, Roberto Gervaso Mondadori. Allora, le citazioni qui si possono, no, ce ne sono tantissime da fare, però io partirei da una cosa, caro Roberto, che è questa. Abbiamo parlato recentemente qui alla Zanzara di poliamore, con diverse testimonianze, soprattutto per la contentezza di Parenzo, che invece è irrimediabilmente una persona monogama. No, però cioè, se ne pentirà presto. La differenza tra la monogamia e la bigamia: la bigamia è una moglie di troppo, la monogamia è la stessa cosa. Senti, il poliamore, tu sai cos'è? Sì, naturalmente. No, immagino in base così al valore semantico della parola, ma no, credo che sia un amore multiplo. Multiplo, sì, multiplo in cui però tutti sanno tutto, capito? Cioè tutti sono informati di tutto. Forse il piacere è questo, è sapere tutto di tutti fingendo di non sapere niente di nessuno. Ah, fingendo però, tu dici. Fingendo, perché la finzione, non c'è niente di più trasgressivo della finzione. La finzione è un'arte. Io sono favorevole ad esempio alla menzogna e non alla verità, perché la verità è nuda e cruda e si esaurisce in poche parole, mentre la menzogna richiede una grande fantasia, una grande immaginazione, una grande intelligenza e anche un grande coraggio. Beh, questo è interessante, Parenzo, perché in realtà... Ma quante balle hai raccontato tu in vita tua, diciamo, alle tue donne, ecco, questo diciamo. Tantissime. Io alle donne non ho mai detto a una donna che non ero sposato, anche quando lo ero, non l'ho mai detto. Vabbè, questo, anche perché sarebbe stato... Non l'ho mai detto, però non ho mai... Le ho chiamate tutte amore, almeno nell'intimità dell'alcova, e se loro si facevano delle illusioni non ne avevo colpo, perché in fondo era un'espressione d'affetto. Però fingevi, hai finto moltissimo, o no? Ho finto, la finzione in amore è legittima difesa. È legittima difesa da che cosa? Legittima difesa dall'insidia della malizia femminile. Ah sì, dalle insidie dell'essere femminile. Cioè bisogna difendersi dalle donne. Della malizia, dall'insidia, della malizia femminile. Delle malizie femminili, vabbè, insomma, dalle donne. Cioè, dalle donne bisogna difendersi, dici tu. Beh, dalle donne bisogna difendersi perché le donne, vedi, le donne noi siamo dei quadri. E le donne sono dei problemi. Le donne non dicono soltanto delle verità, delle menzogne utili. Una donna non dice, anche perché l'amicizia è una cosa, una prerogativa maschile, fra le donne c'è solo complicità. Capito Parenzo? Questi sì, sono esatto, grandi insegnamenti, sono grandissimi insegnamenti. Ma ecco, la vita è troppo bella per essere vissuta in due, no? Cioè tu alla fine, il tuo massimo di rapporti contemporanei, caro Roberto, qual è stato il tuo massimo di rapporti? Cioè sei guarda, stato... Io un giorno andai a intervistare Simenon, che viveva con Simenon, la sì. moglie, la sua governante, che si chiamava una friulana, che si chiamava Teresa Sbureling. Sì. Nome certo non british, no, assolutamente no. E prima di partire, Fellini mi dice: chiedi a Simenon, questo è anche nel diario di Simenon. Chiedi a Simenon quante donne ha avuto. Sì. Io gli dissi: ma Simenon, quante donne le ha avuto? Lui mi ha detto 9.000. Intervenne la terza moglie, Teresa, e disse: Gioi, facciamo 10.000. Io dico, facciamo 10.000. Oltretutto era una lusinga, era un complimento. Allora? E poi lui chiese a me: ma lei Gervaso quante donne ha avuto? Io dico: ne avrà avute 300. E la moglie disse: facciamo 500. E facciamo 500. Ah, così, cioè... Così. A me menzogna anche qui? No, no, menzogna no. Io 300 donne credo di averle avute, anche perché... ho dedicato la mia vita per metà alla scrittura, per metà alle donne. Sono sempre stato un marito infedele. Fedele all'infedeltà. Ah, fedele all'infedeltà. Beh, molto bene, molto cioè, a tuo bene. Modo sei stato fedele, diciamo, no? Fedele all'infedeltà. Ma è un po' come te in questo, no? Sì, diciamo che la mia è un'aspirazione, naturalmente, perché poi bisogna avere la forza di essere nello stesso tempo mariti, fidanzati, eccetera, e praticare questa filosofia, cioè la filosofia della fedeltà all'infedeltà. Io voglio capire però tua moglie... Ma quante donne ha avuto in tutto il nostro amico, dice 300. Il nostro amico Roberto Gervaso? Diciamo la verità. Ne avrò avute 300, certamente... Certamente 300 almeno ce l'hai avute. 300. Adesso non puoi più perché sei, diciamo, impotente, no? Beh, no, sono impotente. È impotente. È da quando ho 63 anni mi hanno asportato la prostata, ho subito 42 sedute di radioterapia. È tutto finito. Quindi ho raggiunto veramente, questa è la griglia. Io non credevo prima alla provvidenza, finché la provvidenza mi ha tolto questo chiodo che avevo fisso in testa. Io ero uno che apriva l'impermeabile, capisci? Ah, tu sei uno che apriva l'impermeabile, dunque praticamente la prossima. Adesso non c'è niente da aprire, perché non ho niente da mostrare. Quindi ero uno sparviero di alcove. Ero un gallo cedrone, adesso sono un cappone. Cioè, capito qual è la storia, in fin dei conti? La storia è questa, cioè era praticamente ossessionato, malato, roba da appunto... No, malato no, perché voi non è una ossessione come me, dite la verità. No, io sì, allora... io sono come te, però voglio dire, ossessionato, cioè nel senso roba da impermeabile ai giardinetti quasi, no? Cioè adesso non sì, voglio... Però da berberi, Da berberi, sempre per carità, sempre berberi l'impermeabile. Però e a un certo punto è arrivata la prostata quasi come una liberazione, diciamola. Guarda, sì. credimi, è la mancanza di desiderio, cioè il problema è il desiderio. Quando non è più desiderio, io di fronte a una statua, di fronte a Belen, sono assolutamente indifferente, anzi preferisco star vicino alla statua, perché non sono insidiato, hai capito? Non me ne frega niente. Nulla. Tu mangeresti adesso un abbacchio? In questo momento lo mangeresti un abbacchio? No, adesso, proprio adesso no, magari più tardi, perché? Vabbè, ma adesso non lo mangeresti. Io non ho nessuna... Non hai più voglia, non è più nessun tipo di stimolo, nessun tipo di stimolo, nulla. E questo è uno stato di grazia. Io sono un laico. Ma certo sarebbe bastato questo miracolo per trasformare il mio laicismo in ascetismo. In ascetismo. Io sono diventato un asceta del sesso, mentre ero un demone del sesso. Da demone ad asceta del sesso. Beh, ragazzi, ci sarebbe, si potrebbe parlare. Ma i gay sono qualcosa di immorale, secondo te? Sono contro natura? Tu no, che sei... assolutamente. Io, se invece di sposare una più bella donna, la più bella donna che ho conosciuto, che era la prima intercettrice di Valentino, che si è sposata da 43 anni, matrimonio felicissimo, soprattutto mi fossi, si chiama Vittoria, invece di innamorarmi di Vittoria, mi fossi innamorato di Vittorio, mi sarei messo con Vittorio. Io non ho nessun pregiudizio verso nessuno. Ognuno se la mia genetica e avessi avuto più estrogeni e meno testosterone, probabilmente sarei diventato e i bambini gay. E i bambini, ho moltissimi amici gay, nessuno mi ha mai insidiato, anche perché io non sono mai stato, anche negli anni mai nessuna tentazione per il pisello, mai? No, mi bastava il mio. Ti bastava il tuo. Senti, un'ultimissima cosa, ma che significa un uomo deve avere almeno tre donne? Poi concludiamo. Un uomo deve avere almeno tre donne, la moglie, la geisha e l'amante. Beh, forse anche dunque, la moglie gli dà le camicie, gli lava le mutande e gli garantisce la discendenza. L'amante gli dà la passione, il senso, così ben descritto da Ovidio, di cui vi raccomando la lettura, la sanatoria. E la geisha? Perché lo intrattiene intellettualmente. Intellettualmente la geisha? Sì, la geisha ha questa funzione, una funzione sotto la moglie, la geisha e l'amante. Ciao Roberto, a presto, ciao, grazie, arrivederci, buonasera. Cruciani, ma va suca! La zanzara. Come può uno non ascoltare la zanzara? Cioè, è impossibile, è assurdo, è folle, è drammatico. Viva la zanzara, sempre la zanzara. Allora ragazzi, andiamo a sentire Giancarlo da Pesaro, 800 24 00 24, i WhatsApp 393 71 71 701 701. Giancarlo, vai. Oh, ciao ragazzi, no, volevo dirvi, mi chiedevo, io non sono moralista veramente, però mi chiedevo se mentre mangio, no, io devo sentire a voi che parlate di tutte queste cose, di sporcizia. Di che parliamo? Quale sporcizia? Dov'è la sporcizia? Scusa, abbiamo parlato di tantissime cose oggi. No, oggi, ma tantissime volte. Io sono con i miei figli, mi piace sentire che siete simpatici, però... È una vecchia polemica questa cosa, sei con i tuoi figli. Ma allora... non è una polemica, perché allora te dovresti, no? Se a te ti si rompe il cesso dentro casa, a te pari, no? Allora lo dovreste tenere rotto il cesso, capito? In che senso? Perché finché te fai una rovina... Abbiamo parlato anche di questo argomento una volta. Se ti si ma allora te lo devi tenere rotto il cesso dentro casa, perché io non sono moralista, perché poi le ho vissute più di voi due messi insieme, che avete 40 anni, non so quante avessero parlato della guerra, perlomeno, non so. Ma comunque sia, se ti si rompe il cesso, allora dovete tenere rotto voi due. Perché lo e non sono moralista, io guarda, non sono moralista, perché non te le vengo nemmeno a raccontare le cose io, non sono minimamente moralista. Ma tutti e due messi insieme, se vi si rompe il cesso a casa, tenetelo rotto. Ma perché dobbiamo tenerlo rotto? Spiegami. Lo dovete tenere rotto, il cesso che capito, proprio esce, capito? Adesso scusa se mi sono un po', perché sono un po' emozionato, ho tirato un po' fuori di energie, però mi siete anche simpatici, veramente. Vabbè, Giancarlo, ciao, Fortunato da Napoli, dai, Fortunato. Questo voleva attaccare, poi non è stato in grado di attaccare, Giancarlo. Succede anche questo, Fortunato, vai. Salve, buonasera. Volevo spendere ancora due parole per quella questione di quel post, di quella insegnante di Portici, il cui posto è sicuramente fuori luogo e sicuramente inadeguato, però si continua sempre a guardare reazioni e non si guardano le aggressioni. Tutte le settimane, tutte le sante settimane, per non dire tutti i giorni, cori col Vesuvio, coprili con la lava, puzzano, stanno arrivando i napoletani, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che c'entra questo? Ma cosa c'entra? Ma non c'entra nulla, niente, non c'entra nulla. Ma no, la reazione è proporzionata, cioè tu capisci la reazione di questa qua allora? È certo che la capisco, perché io vado allo stadio tutte le settimane, giro l'Italia e mi sento continuamente ma insultato. Dove? Io conosco, ma quando mai? Ma se vai allo stadio ci sono quelli che insultano, ma se tu passeggi normalmente, io so, ho un sacco di gente di Napoli che conosco che sta qui, che non è affatto insultato ogni giorno da nessuna assolutamente parte. Infatti non ho detto. Allora che dici? Dico che è una questione sportiva. La tipa che ha parlato, che ha scritto questa cosa su Facebook, parlava dello stadio. No, di tu stai dicendo, ma non parlava di stadio, dico, perché la questione dell'Aisel va oltre lo stadio, come sai, no? Ascolta i cori che tutte le settimane in una partita Juventus Poggi Bonzi sono fatti contro Senti, il Napoli. A me non me ne frega niente, a me non me ne frega nulla, a me non me ne frega nulla di questa roba. La signora di Porto. No, ma io evidenzio quello che mi pare, non sei tu a dimmi quello che devo evidenziare. La polemica è incredibile. Cioè, anziché prendersi adesso, come si chiama questo qua? Fortunato. Puoi fare quello che vuoi, perché chiaramente il ristorante, ma questo Fortunato qua. Scusi, Fortunato mio. Fortunato di che cosa? Di cosa siamo fortunati noi che lei ha chiamato? Ma perché non riesce a distinguere? Ma perché lei non riesce a distinguere e a condannare le parole di questa signora che guarda caso parla perché c'è una partita di calcio? Perché non condannate i cori di due settimane fa? Li condanniamo, ma sono due cose diverse. Ma sono sempre diverse a cavoli vostri. Ma comunque condanniamo, condanniamo. Se tanto le basta, condanniamo. In ridicolo, avete messo in ridicolo una cosa e non ne mettete ridicolo. No, abbiamo messo in ridicolo una persona, non una cosa, una persona. Evidentemente una persona. No, una persona, non Napoli, una persona. Ma certo, ma quella persona, guarda caso, è di Napoli. Guarda caso, mica l'ho fatto io. Mica è colpa mia se è di Napoli, scusami. Certo, ma siete andati a beccare su Facebook una cosa, un'insegnalazione che chissà da chi è stata fatta, da quale simpaticone che la domenica complotto, va a insultare complotto napoletani. Un complotto juventino, ma sicuramente. Ma non è un complotto juventino, è un complotto dell'Inter, dai, o della Juve. Della federazione, che dice che i giocatori neri mangiavano le banane, ma di che ci vi volete sorprendere? Voi queste cose le tutelate. Chiamiamo Auriemma, dai. Sentiamo Auriemma cosa dice su questo. Ma che c'entra Auriemma? Il grandissimo Auriemma. Sentiamo Auriemma se condanna questa cosa. Auriemma. Chiama Auriemma al volo. Auriemma. Auriemma gli ha detto, uè Pulcinella. E nessuno ha detto niente, era normale. Non è vero che nessuno ha detto niente. Certo, di Sarri si è parlato per una settimana perché ha detto una cosa a Frocio, che è una cosa assolutamente nel linguaggio comune di tutti, perché lei non ha mai detto Frocio. Vabbè, adesso stai andando oltre, stai andando oltre. C'è il complotto contro Napoli, il complotto contro Napoli. Aspetta un attimo, fermo. Auriemma? No, che Auriemma. Pronto? Pacello? Pronto? Non risponde più adesso. Non risponde più, ragazzi. Capito, Fortunato? Non risponde più perché adesso se la fa sotto. È lei che se la fa sotto. È che abbia sbagliato in dubbio. No, ma non c'è niente. Non c'è niente da aggiungere. Però mi piace. Richiamatela. Nella sua trasmissione, sì. Tutti i lunedì mattina. Tutti no, lunedì ma io non faccio una trasmissione di pallone. Scusa, io. No, di pallone. Guardi, che non le sto dicendo faccia la classifica o dica i risultati. Le sto dicendo faccia sentire i cori. Vabbè, ma nessuno tu, mi stupisce, ma non è quello, come... ma non è quello quello il punto. Non è il problema. Aspetta quello un non attimo, problema. Aspetta un attimo. Il problema è... Aspetta. Pronto? No, ma perché abbassa il telefono, signora? Senta, mi lascia perdere, per favore. No, ma io voglio spiegazioni su questa cosa. Perché c'è un clima di tensione, signora, scusi, ha ragione. No, ma lei magari ha ragione, però voglio capire da dove nasce questo, quello che ha scritto, capito? Da dove nasce? Da che cosa nasce? Dalla rabbia per altre cose che sono successe? Da che cosa? Niente, non... Non c'è, ha abbassato il telefono, dai. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Paola, Milano, vai. Ciao. Dimmi Paola, dimmi. Allora, volevo dire solo che siete un po' patetici con sta storia delle... più mogli, più donne, più un sacco di storie così, con Gervaso prima, tu No, vabbè, Parenzo no, abbiamo capito. No, Parenzo no, Parenzo no. Il poliamore, il poliamore è una cosa, lo scambismo è un'altra, avere più relazione è un'altra cosa ancora, sono tutte cose molto diverse che vanno spiegate, eccetera. Però magari tu hai una tua idea, una tua storia da raccontarci. La mia idea è che è un po' patetica questa visione tutta maschile del fatto, è ovvio. Ma maschile, abbiamo sentito pure delle testimonianze femminine nei giorni scorsi, cioè. Ma fammi finire. Non, è ovvio che non può piacere una persona sola nella vita, anche perché allora chi resta vedovo che fa? Si spara. Ma non è che questo. C'entra? Quello è un altro discorso. Proprio, vedove no, muore un'altra persona. Ci sono più persone nella vita, ci sono gli accidenti, le persone che incontriamo ci piacciono. Però mi sembra un po' patetico questo rimarcare, anche perché ho sempre pensato, per ogni uomo che tradisce, cioè l'elogio del tradimento è un po' fastidioso perché sì, ma non è solo, non è solo l'elogio del tradimento dell'uomo, in generale. Cioè, ma ovvio, ma senti questo, allora, io penso che per ogni uomo che tradisce c'è una donna che ci sta, e non è che le donne sono tutte libere, giusto? Bravo, ecco, certo, quindi allora l'uomo che in quel momento è tutto tronfio perché si va a fare la sua storiella extra, probabilmente in quel momento lascia libera la sua donna che ne approfitta e si fa la sua storiella extra di un altro uomo che probabilmente, cioè, è una catena, ma siamo qualcuno umani, che mi sta ovvio. Chiamando da Napoli, non capisco chi è, qualcuno che mi chiama Sarà Uriemma. Aspetta un attimo, però volevo dire, a questo punto, e non sposatevi, cioè anche l'altra volta Feltri che dice che palle fare figli, e perché li ha fatti? Cioè, ma nessuno è obbligato, perché lo so, qui poi viviamo perché viviamo mogli, perché hai ragione su questo, però viviamo anche di contraddizioni, amica mia. Viviamo di grandi contraddizioni. Capito, allora se ogni volta però la concludiamo con le contraddizioni si passa sempre il messaggio che va bene tutto, no? Cioè lo trovo un po' triste, ecco, voglio dire che è un po' patetico perché è una cosa molto maschile. Noi donne lo facciamo, ma magari con un po' più di stile, a volte, a volte. Ciao. Io vorrei tornare però sulla vicenda Zanella Brizzi, caro Parenzo, Zanella Brizzi. Già, come dire, eccitato quella storia, questa idea di scontro tra civiltà. Non posso nemmeno prendere il caffè, sostiene il signor Brizzi. Ma no, cos'è? Che cazzo ne so, i vegani, gli ultra vegani non possono, cioè non possono bere il caffè, dai. Ma il caffè non è da un chicco. Ma io che cazzo ne so, dai, su. Non è solo vegana, lei è salutista, animalista, tutte cose bellissime quando non le applica a me. Ma lei mi sta preparando per Rio 2016. Ma quest'uomo non prende nemmeno il caffè, vero? No, è impossibile. Neanche il caffè. Non a casa. Non a casa. Posso prendere fuori, ma poi devo confessare. È arrivato il momento del G. Il sondazzo. Le celebri provocazioni telefoniche del G. Vietato ai minori. Di spirito. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, signora. Buongiorno. Io cerco il signor Gabriele. Sta qui. Lei chi è? Io sono Gioia La Troia del telefono sexy. E lo chiamo perché lui deve fare una telefonata sexy porno molto spinta con me. Pronto? Sì, ma io non ho capito niente, scusa. Sì, lui deve fare una telefonata sexy con me. Lei è la moglie? Sì. Non si preoccupi, è solamente una cosa telefonica. Facciamo l'amore per telefono e basta. Ma che stai a dire, a scema? Mi passi che... Come a scema? Scema a me? Io sono un maschio, eh. Oh, a scema. Scema mi ha detto. Naturalmente non me l'ha passato, anzi ha riattaccato e io richiamo, sperando che magari arrivi lui direttamente, Ma, chissà. Insomma, queste donne mi danno di scema, chissà perché. Ma... Pronto? Sì, pronto. Io sto cercando Gabriele, per favore. Non do a pazzo Gabriele. Ma perché? Perché no? Perché mi hai parlato troppo brutto sporco. No, lui vuole fare l'amore con me per telefono. Lui ha fatto un abbonamento. Come? Lui c'ha la moglie, basta. Sì, ma dice che non gli basta. Ma che te l'ha detto a te? Lui mi ha detto, guarda, non ce la faccio più, ho bisogno di uno sfogo, anche telefonico. Gabriele, vieni qua e dimmi la verità. Ecco. Guarda che io ti faccio arrestare, eh? Chi, Gabriele? No, io ti faccio arrestare a te. A me? Sì. No, a Gabriele, a Gabriele. No, no, a te, me, non Gabriele, a Gabriele. Pronto? Pronto? Gabriele? Ma chi è lei? Tesoro, sono Gioia la Troia. Perché tua moglie è così dispotica? Sì, ma chi è lei? Ma io non lo conosco. No, sono Gioia, sono una donna. Eh? Gioia la Troia del telefono sexy, come stai? Stai bene? Sì, stai bene. Bene? Senti, io sono molto sexy, distesa su un divano, solo reggiseno e mutandine. Cosa vorresti fare con me? Ma io a lei non lo conosco, non so che cosa gli devo rispondere. No, come non lo conosco? Sono una donna, sono la tua porcellina. Ah, sei la mia porcellina? Sì, tesoro. Ma dove abita? Dove abita lei? Scusa. Io non posso dirtelo, io sono per telefono e basta, facciamo l'amore solo per telefono, capisci? Ascolta, cosa devo togliermi? Reggiseno o mutandine prima? Cosa dici? Sì. Tutte e due? Che porcone che sei, sì, così. Sì, sono porco. Ecco, mi sto togliendo le mutandine adesso, così, così piano, piano. E ora anche il reggiseno, guarda. Mi sento più libera adesso. Si sente più libera, vero? Sì, come mi devo mettere? Ti devi muovere? Sì, posso muovermi, come devo mettermi? Gambe allarghe. Sì, ecco, è tutto per te, cosa fai, cosa mi fai, cosa mi fai? Ti faccio, te lo metto dentro. Meraviglioso. Ma tua moglie non sarà gelosa? Beh, adesso non c'è. Ah, sì, così, bravo. Mamma mia, come sei uomo, virile, sodo, forte, duro. Mamma mia, oddio. Dimmi quando stai venendo. Sì, e tu? Non ti tocchi tu? Sì. Sì? Ecco. Stai facendolo? Sì. Gabriele, mettimi a farle bene. Sì. Così, così, Gabriele. Come va? Hai finito? Tu hai finito? Sì. Oh, Gabriele, è stato meraviglioso. Abbiamo goduto insieme. Sì, sì, sì, sì. Passami tua moglie adesso. Te lo passo. Sì. Signora? Sì? Come ti hai permesso oggi di telefonare? Non ti permettere più, Ma Gabriele ha goduto, ha fatto l'amore con me, hai sentito? Sì. Basta! È stato meraviglioso! Lui c'ha la moglie! Sì, basta! Ma tu sei bruttarella, capisci? Sono brutta io? Sì! Sì, ma a lui gli piace! Sì, ma mi piace più io! Tu sei un porco, una porca! Io sono più bella di te, capisci? Sono, come lo sai che sono sei bionda. Più bella di me? Vai, zozza! Io sono zozza? Sì, zozzissima! Sì, tu sei zozza! Non faresti queste telefonate! Sono una zoccola! Beh, tu capisci fino a che punto arrivava... La cosa pazzesca. Fino a che punto di... No, di cioè, follia si arrivava. Questo qui è a partire dalle tech della radio, per questo l'hai mandato. È stato l'antesignano... Cioè, sarà storia per te questo, no? Radio, no, cioè, è stato l'antesignano di qualsiasi cosa. Cioè, l'anticipatore di un sacco di persone che hanno, sì, capito, che hanno preso, hanno succhiato e hanno poi trasformato anche i loro programmi. Alcuni programmi sulla base di quello che ha fatto il G. Ragazzi, dobbiamo chiudere. Meno male, bene. Rimandiamo bene tutta la discussione su Napoli e dintorni a domani, se resterà ancora qualcosa, non di noi, ma di questa vicenda. La professoressa Eliza, a domani 18:30, ciao. Ciao Coccolo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh? Radio 24. La passione si sente.